I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. State tranquilli, siamo per registrare una puntata di dietrologia videoludica con gli Omissis. Anzi, penso che Marco adesso fra un po' lo mette anche sulla, continua a mettere Omissis sul documento e non capiremo mai un cazzo. Esatto, no, perché c'è la sua cosa. Io mettiamo gli indizi, però io devo andare a lavorare. Anche io devo andare a lavorare, tranquillo. Tranquilla, che va tutto. Vabbè, che Peppe proprio ci offre il caffè, eh. Ecco qua. Ma oh, poi guarda quanto se è vuoi ti catturo lo screenshot, se lo vuoi meglio. No, lui è tra i più artigianale. Ci sono le iniziali di ciò di cui parleremo. Ma non per tirare fuori la farta. Italian Podcast Network presenta Fatality. Excellent. Dietrologia videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. 3x15, riciclaggio di materiale umano. Che titolo un po' angosciante, un po' ambiguo. È una puntata bella pregna, abbastanza interessante, che il nostro amico Stefano Biggio ha condotto insieme a persone che ci presenterà dopo, mentre io e Marco andremo a giocare a Pillars of Eternity, perché c'è anche Marco. Ciao, senti, io qua non capisco, ma la palla di fuoco, aspetta che mi avvicino. Palla di fuoco, tu la sempre palla di fuoco, fuoco a prescindere. A prescindere. A prescindere, aspetta che metto. Te l'ha fatto vedere. Palla di fuoco. Ecco, bravo, mi hai rovinato la partita. Te l'ha fatto vedere pure su cosa? Sui Vendicatori, la Avengers. Hai visto quella? Palle di fuoco. No, sempre sono i Fantastici 4 che hanno la palla di fuoco. No, ma anche se 4, tu arrivi a magie di sesto livello o di settimo livello, è uguale, sempre palla di fuoco. Beh, quello è un classico di Dungeons and Dragons. Tra l'altro, io ce l'ho e non ci ho ancora giocato Pillars of Eternity, però ho intenzione di giocarci. E penso che sarà il mio gioco dell'estate se mi prende bene. Nel senso che ci giocherò tipo quando sarò a Cagliari. Impossibilità. Beh, diciamo che una 60 tinatore te le porta via. Beh, tanto non ti buttare dentro al buco, però. Esatto. Non farlo. Prima finisci. Non il fare gioco, l'errore di Marco. Non fare il mio errore. Prima dici ci sarà un buco dove ti dovrai buttare. Ecco, prima di non buttarti, accertati che hai finito il gioco. Guarda, se vuoi, prega le divinità per buttarti qui. Ecco, non ti buttare. Prima finisci bene il gioco e poi dopo ti butti. Va bene, ok. Me lo detto questo. Detto questo, prima di introdurre la puntata e quindi lanciare ovviamente l'osservatorio, diamo i riferimenti, che ne so, li do io, tipo www.dietrologiavideoludica.it. Dietrologia Videoludica lo trovate su Facebook e Google+, Dietrologia Videoludica trovate anche su iTunes, andate lì, vi abbonate gratuitamente, mettete 5 stelle, fate una recensione, che è un bel pezzo che non lo fate, maledetti infami. Capisco che dopo la puntata della Camporella, che è la migliore puntata che sia stata mai prodotta da Dietrologia Videoludica, vi viene la voglia di metterne una. Io direi da tutto PN adesso, sinceramente. Cioè, tutto, deve calare tutto il network. Tutto, tutto. Aspettate un momento, perché qui c'è degli avvisi che mi arrivano. No, riavvia, anche riavviare. Riavvia in seguito. E poi abbiamo il Twitter, che è Dietrologia Vide. Che chiaramente insomma un video ludo, no, come vi pare, avevi ragione tu, perché mi smentisti a suo tempo e fu vero. A suo tempo e poi verificasti, esatto. Giustamente. E poi dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Vi ricordiamo che questa è una trasmissione prodotta da Italian Podcast Network, copro con Retrocast. E poi ci sono anche gli amicici di oldgamesitalia.net. Allora, Biggio, di cosa avete parlato con i simpatici amici? Con lo simpatico Santilio, il piccolo Marpo, il bambino più grande del mondo. Insomma, questo riciclaggio di materiale umano, che sarebbe? si fa presto a dirlo, a spiegarlo. No, okay, allora sono, facciamo una cosa. No, non è vero. Ma ci sono i cassonetti. Esatto. Differenziati. Per il frutto del peccato. Per i frutti dei peccati, anzi. No, facciamo una cosa. Come diceva giustamente Pizzi, il riciclaggio riguarda il materiale umano, in questo caso, quindi le persone, quindi nel caso dei videogiochi non si danno pace. Esatto. Nel caso dei videogiochi è il Kickstarter. Ho detto una fregnaccia. Ma sì, adesso stai per entrare in studio a andare mentre che noi giochiamo. Però prima di lasciarti andare, insomma, al tuo destino, con la consapevolezza che vedo che hai. Insomma. No, aspetta, adesso mi sto confondendo tra gli episodi. Pizzi. No, lo so, ma è la puntata su Kojima. Comunque. No, adesso non incasinare la cara di cosa, Stefano, fai una cosa. Hai indossato i guantoni e esatto. E il boxer. Perfetto, metti l'asciugamano con il da sopra. Esatto, sei tu quello che fa la boxer. Accappatoio, no? E vai. No, l'amico suo, sempre l'amico suo. Sempre vai. Entra dentro lo stage insieme agli altri e vedi quello che succede. Ma prima ci ascoltiamo Giuseppe Saso che ci parla di Pokémon nel primo avvio. Che ci parliamo in realtà, noi ci parliamo? Sì. Ah sì, sai, non allora vedi che non sono l'unico allora che si incasina con gli episodi. Andiamo a parlare con Giuseppe, poi dopo ritorniamo da te, eh? Ok. Giuseppe, stava arrivando. Primo avvio. Allora, siamo qui con Giuseppe, anche detto l'osservatore videoludico Saso. Osservatore? No, l'osservatore. L'opinionista. Lo vedi? Lo vedo il 3D, sì. Come ad esempio il 3D? Ah. Oh cazzo. Vedi, il 3D è un 3D. Allora, in questo momento... Sentite la musichetta, vicino. Aspetta, in questo momento abbiamo acceso il nuovo 3DS, mm-hmm. Ok? Che Giuseppe ha testé. No, alza quel microfono. Alza, okay. No. Che ha comprato da. No, non si può dire. Da ladri. No, no, da quanto? No, non volevo dire. È uscito il 13, lo scorso 13, venerdì 13, okay. Di febbraio. Parliamo prima di tutto. Vedi il 3D? Posso? Vai. Parliamo intanto prima di tutto. Qual è la prerogativa fondamentale? Aspetta, adesso sto entrando nel 3D. Sì, sì. Se... Perché ci vuole un po', no? Per entrare nel 3D. All'inizio gli occhi vanno un po' strano verso un D e l'altro. Bravo, verso, esatto. Un altro D, rimane il terzo al centro, quindi deve... terzo occhio, sì. adesso insomma, si vede. Diciamo, qual è la prerogativa di questo nuovo 3DS? Perché l'hai acquistato prima di tutto? Vabbè, innanzitutto l'ho acquistato perché non avevo un 3DS, avevo un 2DS, quello che non aveva il 3D. Ok. In più, vabbè, è ha un processore potenziato rispetto al vecchio 3DS, tant'è che infatti usciranno pure per questa console dei giochi che non saranno compatibili col vecchio 3DS. Posso giocare? Sì, spingi, dai, spinta. Aspetta, sono le cose qui. Aspetta, non mi cancellare i salvataggi. Allora, fai tu, perché ho già fatto i rese. E poi la cosa bella è che appunto c'ha un 3D migliorato perché viene stabilizzato dalla telecamera. Sì, perché i primi due secondi ti si incrociano gli occhi, però dopo la telecamera ti mette a fuoco. È un 3D, come vediamo, stereoscopico di profondità. No? Perché? È veramente strana. Cioè, non mi è mai capitato di vedere una cosa. È strano. Ma ti piace? Ti dà fastidio? Non mi dà fastidio, uh-huh. Ma non so quanto riuscirei a starci a guardarlo. Uh-huh. Poi vabbè, tutte le vicissitudini che ho dovuto fare. Aspettati, di questo qua magari ne parliamo pure un attimo, già che ci siamo. Okay. Ovviamente, tu che cosa ti aspetti quando compri una nuova console? Che tutte le cose che sono legate, tutti gli acquisti che hai fatto sono legati al tuo account. Certo. Come hai fatto con una PlayStation o con... E invece manco per cazzo. Manco per cazzo, perché Nintendo è sempre indietro. Okay. Tutte le cose che fai, tutti gli acquisti che fai del tuo account sono legati alla tua console. Alla macchina, ok, all'oggetto. Quindi che cosa devi fare? Beh, attraverso una procedura draconiana, devi fare un trasferimento quando lo compri senza avere registrato nella nuova console il vecchio, cioè il tuo account, perché altrimenti sei finito. Mm-hmm. Prima di fare questo devi trasferire tutti i tuoi dati dalla macchina vecchia a quella nuova. Ok. Per farlo lo puoi fare o con un passaggio fisico, quindi siccome il vecchio 3DS legge le memory card SD è quello nuovo, siccome Nintendo è sempre avanti, è passato alle micro SD. Okay. Quindi devi prendere queste schedine e te le metti nel, in un lettore del computer, copi le cartelle sul desktop e poi unifichi tutto, o te le fai via wireless, via wifi. Quando te le fai via wifi, che è quello che ho voluto preferire io, che ed anche l'operazione dura un certo tempo, cioè sì, tutta la cosetta sempre simpatica di Nintendo, che vai di tipo le animazioni con i Pikmin, che ti sono questi personaggi di un gioco che ti prendono i dati e ti rispostano da un DS all'altro, vedi gli schermi che passano da uno schermo e vanno nell'altro. Però la cosa bella è che lui, per sicurezza, perché non puoi, comunque non sia mai detto che tu abbia due account attivi in contemporanea, due macchine diverse, appena finisce la procedura è proprio disintegra quello precedente, ti reinizializza la memoria SD della console di partenza. Ma questa è paranoia psicopatica giapponese conservatrice di Nintendara. Ed ecco perché noi di solito li mandiamo a fare. Esatto. Invece il primo avvio che volevo farvi invece era di un gioco che è uscito oggi, almeno quando stiamo registrando adesso, che si chiama Pokémon Shuffle, ed è un gioco del brand dei Pokémon freemium, che appunto, come aveva predetto il buon seguendo il Nintendo Direct, il buon Stefano Piggio, effettivamente è una prova, e secondo me che frutterà molto a Nintendo, di buttarsi anche nel mercato dei free to play per console casualoni proprio. Sì, sì. Perché anche questo rientra nella filosofia. È praticamente la copia de Candy Crush con i Pokémon, perché tu hai praticamente una quantità di limitata di battaglie, di livelli che puoi fare, nel momento in cui li esaurisci, ogni mezz'ora di gioco o di console lasciata in standby te li reincrementa. Okay. Esattamente come era in Candy Crush. Poi quando giochi, il gioco è fondamentalmente un, come si chiamano, match 3 di giochi, cioè quei puzzle game dove devi allineare tre o più figure uguali, e lo puoi fare in un certo numero limitato di turni. Nel particolare di Pokémon Shuffle è come se lui simulasse uno scontro, diciamo, della serie Pokémon contro un Pokémon selvaggio, dove tu, allineando le varie figure che rappresentano i Pokémon che tu hai nella tua Pokéball, loro eseguono questi attacchi danneggiando, quando li allini con tre o più, danneggiando il Pokémon avversario. Quando tu sei riuscito a ridurre la tua energia a zero entro un numero limitato di mosse, di turni, hai vinto e puoi andare avanti a sbloccare nuovi livelli e in maniera del tutto casuale forse anche fregarti quel Pokémon, cioè riuscire a catturare il Pokémon selvaggio. Okay. Ti faccio vedere poi il perché è in maniera casuale. Allora, per esempio, qua come vedi, lui ti ovviamente, siccome è un gioco fatto anche per bambini, come vedi, qualche mossa. Come vedi, nel senso, per noi, perché gli ascoltatori non vedono. Hai visto, ci sono pure le combo praticamente. Okay, sì. Cioè, riconosci tu qualcosa di combinabile? Quindi non devono essere uomo contigui. No. Che ne cresce che non è così, scusa. No, devono essere attaccati, devono essere scambiati. Ah, e allora un po' ancora un po' più facilitato, insomma. Sì. Ovviamente gli attacchi che ti fanno gli altri Pokémon magari ti possono confondere, anche ti possono scambiare pezzi della tua scacchiera dell'avversario, ovviamente per rendertelo un poco più difficile e anche più variegato. Vabbè, e quante ore ci hai giocato a questo giochino? Beh, l'ho scaricato oggi, però ho sempre aspettato che col tempo mi si reincrementassero le mosse senza spendere neanche un centesimo. Ok, perché qual è il meccanismo invece che può innescare delle microtransazioni o roba del genere? Che in pratica esauriti i cuoricini, che sono quelli per fare i livelli, oppure le monete per comprare oggetti e vantaggi, o anche se magari non riesci a finire entro un numero di mosse, lui ti chiede vuoi che ti do tipo 5 turni in più senza che tu devi ricominciare da capo il livello. Se sì, pagami ovviamente, e questa valuta, che sono i diamanti, varia a seconda dei soliti tagli. Quindi un diamante costa ben un euro, cioè 99 centesimi. fino a 75 diamanti, che è il taglio più grande, che costa circa 46,70 euro, quindi 50 euro. C'è da dire comunque che, essendo un gioco politico, un gioco fatto da Nintendo, quindi per anche per i bambini, mm-hmm, ovviamente lui ha, qualunque sia l'acquisto, a maggior ragione di quelli che dei soldi veri, sia virtuale che esatto, reale, che valuta virtuale, lui ti chiede sempre conferma, dicendoti: guarda che stai spendendo X della tua, del tuo gruzzo, lo vuoi fare? Sì, sì, per cazzo, ovviamente il bambino che ne frega il cazzo perché non tira fuori nulla. Sì, però loro intanto politicamente sono, io te l'ho chiesto, se sono parati il culo. Ok, commento finale. Aspetta che sto per finire. Ma è gratuito, se avete il 3DS ve lo consiglio. Ultima cosa, ecco, l'ho sconfitto. Quando poi sconfiggi il Pokémon, solitamente nei giochi classici dei Pokémon, tiri la palla, la Pokéball, e dovresti riuscire a ciucciartelo. Qua hai una probabilità, ecco. La probabilità di cattura dipende dalla rarità del Pokémon e dal numero di turni. Lui ti dà come bonus, ti aumenta la probabilità in base al numero di turni che ti sono avanzati. Ah, ok. Di mosse che ti sono avanzate per tenere. Quello che prendi in Candy Crush. Questo è il 50%. Praticamente. Esatto. Cioè, questo partiva da che era tipo un 20% scarso di base. Siccome però tipo mi erano avanzati 6 turni, me l'ha fatto arrivare a un misero 56%. Più è raro il Pokémon, e più diventa difficile. Sì. Ma puoi aumentarlo pagando con i diamanti, no? No, esatto. Ah. Se tu tiri la Pokéball, vedi se va. Se per esempio non va, perché il 56% non credo che vada, no, è andato, vabbè, pazienza. Se non andava, diceva: come c'è in Pokémon, vuoi la Master Ball, quella più potente, che ti dà magari una probabilità maggiore, ma non è detto che te la dia al 100%. Paga. Ovviamente. Pezzi di merda. Poi, ovviamente, quando completo il livello, visto, mi ha dato la valutazione S, perché in base ti dà dei gradi come in tutti i giochi mobile. E se vuoi lo puoi ripetere. E se vuoi lo puoi ripetere, anche perché magari se non riesci a beccarti il Pokémon, non riesci a catturarlo a quel tentativo, puoi anche rifartelo. Perfetto, va bene. Io direi, e ovviamente è per 3DS e 2DS questo gioco. Visto che questo è il puntatone che abbiamo, lo specialone, cioè, e occupa tanto, tanto tempo, ringraziamo Giuseppe per questo primo avvio e per averci mostrato anche il nuovo 3DS, e benvenuti all'inferno. Dopo che Stefano Biggio ha aperto praticamente le porte ai primi avvii relativi ai Candy Crush like, praticamente adesso si parlerà solo di questi giochi su Dietrologia Videoludica, perché anche Pokémon, insomma, da quanto dice il buon Giuseppe, pare che insomma sia una cosa. Ma era il 3D, è piaciuto il 3D? Non lo so, perché io. Tu ce l'hai il 3DS? Tu chi? Giuseppe Stefano. No, scusa. Giuseppe Stefano. No, io non ho il 3DS, io ho la PS Vita. Anche okay, se non c'è giocato Pokémon. No, invidio un po' il 3DS, non tanto per i Pokémon quanto in generale. Però no, non c'ho davvero, da anni che non lo tocco i Pokémon. Bene, bene. Va bene, io invece tu c'hai qualche primo avvio, Marco? No. No. Io avrei un primo avvio. Potrei dire, sì, beh, GTA. GTA, GTA versione PC, però. Beh, sì, d'altronde, cioè, di Stefano ha fatto Murdered, però io fatto Murdered, possiamo pure. Però perlomeno anche io qualcosa di meglio comunque, non preoccupatevi. Che cosa c'hai? Pac-Man, no, Wolfenstein The Old Blood. Ah, ne vuoi parlare adesso? Scusa, se volete, allora. Ma certo, però volevo lasciare campo a Marco, se, visto che veniva. Beh, io velocemente, insomma, ho cominciato a fare le prime missioncine così. A GTA, no, gioca a tennis, ha detto questa sera. Il problema è quello che poi quando cominci GTA, soprattutto in un sistema dove ci sono 3 personaggi, quindi non c'è un'affezione immediata al personaggio perché sono 3, quindi già che switchi con 2, e quindi ho cominciato un po' a switchare, a fare un po' i cazzi miei, a parte che ho deciso di fare un po' di immedesimazione, quindi cercherò di seguire quella che è la psicologia dei singoli personaggi, che ovviamente quando arriverò a Trevor sarà fogliatura. Oh, finalmente Trevor ti svolta il gioco praticamente. Assolutamente. Beh, praticamente Jack Nicholson comunque. Io. Beh, no, non proprio Jack Nicholson, no. Però quando si sveglia male, esatto. Ma Jack Nicholson, cioè è proprio studiato fisionomicamente su Jack Nicholson. No, è su un altro attore che è identico a lui. Davvero, no, poi si vede, cioè, sono le comunque praticamente ho cominciato ad andare in giro per questa città e effettivamente è una città viva, proprio la vedi? Bella sì. città, a un certo punto me ne sono accorto andando in giro per i cazzi miei, stavo raggiungendo una località e a un certo punto stavo passando, sono da un cavalcavia, ho visto degli elicotteri appoggiati che stavano praticamente davanti a questo cavalcavia, due o tre elicotteri. E tu che sta succedendo qua? E mi sono fermato per andare a vedere che stava a succedere, come farebbe una persona qualsiasi che sta in macchina esatto. E vede questi elicotteri che si cominciano a posare. In realtà c'era sotto un campo di atterraggio di elicotteri, quindi niente di particolare. Dice, però, è normale, c'è il campo di atterraggio, dove atterriamo. Dopo che atterro. Esatto, però vedi, dice, cazzo, però vedi, cioè, stavo andando per i cavoli miei, ho visto... Cioè vedi, pure quelli che facevano le passeggiate sulle montagne, vuoi dire? Cioè. Sì, sì, però in quei momenti che stai facendo le due cose, vedi questi... Dice, ma che sarà un bug? E invece no, è proprio una cosa... Sono piccoli particolari, i particolari sono importanti. E invece quello che è andato sullo spazio... Ma poi non ci sono ancora arrivato. No, c'è il tizio, c'è un tizio che ha fatto un filmato su YouTube che lui è andato sullo spazio. Beh, ovviamente il motore non glielo concede. E quindi praticamente gli disintegra il mezzo e lui qui ci ha precipitato praticamente dalla ionosfera, una cosa del genere. Cioè, vabbè. E c'è anche un fantastico mod che praticamente sul multiplayer c'era proprio l'articolo. L'unico mod di GTA che, per il quale vale la pena essere bannati. Perché praticamente si chiama Carmageddon. E praticamente mentre che tu cammini, fai i cazzi tuoi, le macchine impazziscono e ti cominciano a venire addosso, ma tipo che a velocità della luce. Cioè non le puoi evitare. Ma anche se tu, che ne so, preso dalla macchina, sei schizzato sopra un tetto di un palazzo, se tu ti affacci, la macchina ti schizza addosso uguale. È una cosa fantastica, insomma, vabbè. E tu invece, Biggio? Io vi parlo invece, no vabbè, la mia esperienza con GTA è stata sull'Xbox 360, quindi che schifo. Neanche a dire, sì, downgrade grafico notevole, però molto divertente, molto piacevole, un super giocone, davvero. Però era bello vedere i personaggi in bit sì, pixel art. Lo so, ma sì, perché ormai è retro gaming la 360. Sì, esatto. E vabbè, ma quando è uscito su 360 ti parlo. No, spaccava, no. Dici. Quando eravamo giovani, ti ricordi? Quando eri capellone. Eppure un giorno io tirerò fuori una foto e ti stupirai. Ma lo so che eri capellone. Perché c'è veramente altro che gli Europe. Madonna buona, non so se voglio vederla allora. Anzi sì, la voglio vedere. Infatti ma quando mi sento solo nelle notti di luna piena penserò. Vabbè, facciamo una cosa, che il tuo primo avvio lo rimandiamo per la prossima puntata. Va bene, allora preparatevi a questo punto... per The Old Blood di Wolfenstein. Esatto, che magari te lo puoi anche registrare da solo. Sì, che me lo registro anche da solo, non c'è di niente. Perfetto. Allora entriamo, io e Marco ce ne andiamo. Va bene. Ci andiamo a giocare. Cioè, noi in realtà Pillars, di questa cosa. C'è lo scontro finale, lo dobbiamo fare. Questa cosa qua di ricerca. Ci frega a cazzo. Quindi andiamo a giocare a Pillars. No, noi però, a me, guarda, sta puntata, infatti, io gli ho detto a Santino: guarda, sto male, è morto mio padre, ho diarrea a fischio, roba del genere. In realtà, non me ne frega niente. Cioè, nel senso, era palese, insomma, la cosa. No, però stavo gli scaletti. No, scherzo. Basta scherzi, ecco, questo periodo scherzi oppure. E ritorno sempre alla sconvolgente notizia di archeologia videoludica. C'è la gente che mi scrive anche la notte, ragazzi. Cioè, è una cosa bellissima. Mi arrivano i messaggi sul cellulare. Ma che è vero? Lo so. Ragazzi, quindi a te la parola, Stefano, a fra poco. Osservatorio dietro ludico. Cari amici di Dietrologia Videoludica, bentornati, torniamo all'Osservatorio Videoludico e con me ci sono, direttamente dal mondo dei sogni, Marco Marpo. Ciao a tutti amici. Eccolo qui, il nostro bambino coi baffi gigante, sì. Nonché il nostro padre, probabilmente. Nonno videoludico, chiamiamolo. Nonno bionico. Sì, ormai sì. E con lui il terzo, siamo come i 3-3 oggi. C'è i 3 tenori anche. Sì, c'è anche Gianluca Santilio. Ciao, potevamo essere i tre moschettieri, ma era troppo figo. Quindi no, i 3-3 abbiamo raggiunto subito il fondo. Quindi possiamo anche dire a esposizione. L'acqua è poca, la papera non galleggia. Possiamo anche dire Sara, ma a me mi pare una stronza. Esatto, quello era il migliore. Ma so vivi? I 3-3? Credo di sì. Credo di sì. Penso che siano... Cerebralmente non lo sono mai stati, però... No, ma penso che siano... Adesso vi dico una cosa forte. Ne ho incontrato uno. Attenzione. No. Attenzione. Non so se era il famoso Edoardo Romano, perché era uno dei tre, era l'unico che chiamavano per nome. Come fai a dirlo? Cioè, quello con gli occhiali, quello con la barba, quell'altro. Cazzo, è l'unico che non mi ricordo. E tu, tu hai visto quell'altro? Ho visto quell'altro. Ok. Così. Stava in tabaccheria. Ah, ok, quello col viso lungo. Diciamo. Sì, sì. Okay. Allora, i 3-3, vediamo un po' qual è questa cosa. E già questo episodio parla subito di E loro hanno fatto un progetto su Kickstarter. Ecco, sì, sì, per un rilancio. I 3-3 Simulator, dopo il punto e clicca di Aldo Giovanni e Giacomo, che uscì nel 99-2000 all'apice della loro carriera. Zero comico. Esatto, zero comico, un capolavoro devo dire. Anche i 3-3 dovrebbero dedicarsi a questa attività di crowdfunding, che è anche il tema principale della nostra simpatica registrazione. Io ci tengo a dire che ci tengo a dire che questa introduzione all'argomento è stata studiata a lungo prima della trasmissione da noi per passare dai 3-3 alla Kickstarter, al crowdfunding, tutto grazie al crack, ragazzi. Ricordatevelo, dite ai vostri figli. È quello che ci aiuta ad andare avanti, diciamo, un po' qui a dietrologia. Bene, cosa possiamo dire, cari amici e ragazzi? Iniziamo dicendo che, come già stato citato in Calavera Caffè, e qui parte il concorsone, scoprite in che episodio è stato citato, in quale puntata è stata citata questo fantastico riferimento a Kickstarter, considerando che poi... Quali premi ci sono in palio? Allora, in premio c'è un assegno di 1 milione di sberle, in primis. Poi, la possibilità di essere affogati nella tazza del cesso. Ok. E ultimo, ma non ultimo, una foto autografata da se stessi. Io penso che avremo il pienone di adesioni a questo torneo, a questa gara. Quello, oppure anche un viaggio a casa vostra, se preferite. Un viaggio nostro a casa vostra, tra l'altro. O quello, esatto. Potete scegliere se voi andate a casa vostra, oppure se noi andiamo a casa vostra come gli architetti di Aiazzone, se ve li ricordate. No, però... Gli architetti di Aiazzone andavano a casa vostra. Vieni da Aiazzone, vieni, quanti mobili troverai. Ecco. Vieni in auto, in carrozzella, ma vieni a Biella. Molto bene, era molto locale comunque. E dai, Azione, ti piacerà. Cioè, era molto locale perché, scusa, Biella, metti, se io vedo quella pubblicità a Cagliari, io sinceramente di andare a Biella, beh, te ne frega il giusto. Beh, ma senti che nome esotico, Biella. È anche una parte di un'auto, esatto. Che il volante è uno che vola e che col rosso si può andare, ma questa è una citazione. Poi Aiazzone è il tipico cognome di Biella, mi pare, no? In Alto Piemonte. Non ho idea, sinceramente. Tu sei del nord, Gianluca. Penso di no. No? Sì, no, nord Basilicata, anzi neanche. Quindi esiste la Basilicata? Non è come il Molise. Sì, beh, esiste. Forse è proprio un verbo. Aiazzone. Pensavo Basilicata. Basilicata comunque. È participio passato femminile, comunque. Di Basilicata. Di Basilicata, esatto. Sì. Detto ciò, oltre a questi fantastici premi che riceverete se troverete quell'episodio, ricordiamo che si è fatto un gran uso di Kickstarter per avventure grafiche e non, ma per nuovi progetti, vecchi progetti riportati in vita, reboot, balle varie ed eventuali. È un fenomeno che continua, ci chiediamo noi. La mia risposta è so. Più o meno come sempre, faccio il democristiano, è democratico. Faccio il democristiano dicendo so, ma innanzitutto chiedo a Gianluca cosa ne pensa, se è un fenomeno che continua. Secondo me sì, secondo me continua, e secondo me continua forse in una maniera anche migliore rispetto a quella con cui nella maniera in cui è partito, perché all'inizio, ora vabbè, se noi andiamo a vedere i progetti più importanti, insomma, uno che ha fatto un grande clamore è stato quello di Ouya, no? La console Android che doveva fare chissà che cosa, e alla fine è stato un giga flop praticamente. Quindi diciamo che all'inizio si andava un po' a rotta di collo, si incassavano soldi a manetta, senza, cioè, cavalcando un sogno più che solide realtà. e quindi ecco, non è che venissero fuori grandi cose. Mi ha fatto molto piacere scoprire che Pillars of Eternity, che è stato l'altro grande progetto finanziato su Kickstarter, l'ex Project Eternity della Obsidian, si sta rivelando un gioco notevole, insomma, quindi veramente capace di soddisfare gli appassionati del gioco di ruolo. Quindi guarda, secondo me le cose andranno abbastanza bene. Quello che si nota, la differenza, è che prima magari si riusciva ad arrivare a alcuni milioni di funding. Adesso le cose si sono abbassate abbastanza, mi sembrano, quindi progetti un po' più umani e forse un po' più realistici, insomma. Purtroppo perché... ci sono... Dimmi, sì, no, scusa. No, tendenzialmente chi... cioè i grossi, quelli che facevano fare i milioni, li hanno già fatti, quindi adesso devono cacciare fuori il gioco tendenzialmente, quindi sì, chi resta sono quelli che un po' ci stanno provando o... Okay. Sì, ora insomma, spero che si risolva anche un po' il problema dei progetti che non vengono portati a termine, perché se ne vedono di diversi. Esatto. Per fortuna di quelli grossi non ce ne sono state, anche perché ti danno $1 milione, non è che puoi anche evitare di far uscire il gioco. Però ecco, va un po' ancora gestito nella maniera corretta questo uso del crowdfunding, però a me piace, sono molto contento nonostante alcune delusioni che magari sono uscite fuori. Bene, e invece il piccolo Marpo? No, sono sostanzialmente dello stesso parere. Ci sono titoli dove che facito il buon Richard Garriott, anzi quello è il nome d'arte, il vero nome è Lord British, esatto. Col suo Shroud of the Avatar, che in effetti non è scappato con i soldi. Però il gioco ha ricevuto, diciamo, dei commenti diciamo misti, anche se non è completo ancora, adesso è su Steam come accesso anticipato. È un progetto molto grande, ha guadagnato su $1.9 milioni solo su Kickstarter, e poi 1 e 1, 1.001.000, immagino, no, 1.100.000 spicci sul proprio sito. Però ancora il lavoro è in divenire, e quindi, però comunque anche così è sempre meglio. È un po' anche un po' l'elemento di scommessa che c'è su un finanziare un progetto in corso, partecipare all'impresa. Volevo dire, fanno pagare più di €40 comunque un gioco incompleto, sì, nonostante abbiano comunque incassato dei bei soldi. E poi non so, Marpo, se tu vuoi esprimerti sulla realizzazione tecnica allo stato attuale del gioco, perché allora non l'ho provato, quindi non posso dire. Certo, graficamente sembra datato, una generazione fa più o meno. È vero che sfrutta Unity, quindi un motore di gioco preesistente. Questo potrebbe essere un difetto o un pregio, nel senso che l'hanno già fatto, quindi in teoria ci puoi lavorare su. Però ci sta, chi ha fatto questa scommessa e chi la vuole eseguire. Io sono con gli accessi anticipati, se uno lo fa con, se uno lo fa sapendo cosa sta facendo, io sono a favore. Se pensi così, adesso mi compro un gioco completo, sbagli. Qui stai vivendo, come hai detto tu, un sogno, il sogno di Lord British. Partecipi a un sogno, sai che è un sogno, può essere che si realizza bene o no. Come dicevo prima in privato, secondo me un aiuto grosso per tutti questi progetti su Kickstarter, crowdfunding, che comunque per quanto possano incassare, oggi è difficile che vadano oltre centinaio di migliaia di dollari. Però il fatto che siano disponibili, centinaia di milioni di dollari in banca, sì, no? Da dare così, insomma. No, però adesso ci sono, no, queste novità sui motori grafici che verranno concessi a titolo gratuito praticamente, quindi il nuovo Unity, il nuovo Unreal Engine addirittura, che fa paura. Quindi si abbatte una spesa per quanto riguarda lo studio di sviluppo, il singolo sviluppatore indie, e di conseguenza ci sarà probabilmente più budget per creare contenuti di vario genere all'interno del gioco, e di aumentare nel contempo anche la qualità grafica, perché poi io immagino in futuro che si moltiplicheranno i database di alberi, massi e cose varie che si possono modificare e riutilizzare nei propri giochi. Quindi secondo me anche da questo punto di vista, con l'evoluzione della programmazione che diventa sempre più economica, ci può essere un ritorno positivo anche per quanto riguarda questi progetti un po' che partono con non tante finanze, insomma. E ciò è bene. E ciò è bene. Ecco, aggiungendo a questo discorso anche un altro discorso, ovvero si sono aggiunti vecchi programmatori, game designer, insomma quelle figure ibride che c'erano un tempo, e hanno ripreso a fare delle produzioni o sperimentare qualcosa di nuovo a seconda dei casi. Ad esempio, cosa ci ricordiamo? Io cito Wasteland, Vastelant, quella latte tedesca. Mi stavo venendo Vastelant, ma soprattutto, vabbè, Star Citizen, che ha fatto cosa, 77 milioni di dollari, mi pare. Una roba così? No, 77 milioni. 7 milioni forse. Aspetta, no, adesso mi sto incasinando io da solo. Comunque questo controllo ve lo dico perché forse ho ragione, ma non sono per niente sicuro. E poi soprattutto, ultimo ma non ultimo, e il caro vecchio The Broken Age, The Broken Age, che parte 1 è uscita la parte 1. Sì, per ora siamo fermi. Uno sfracello di soldi e hanno detto: ah, ottimo, adesso facciamo uscire il gioco. Però ho detto: sapete che forse. Ma anche no? Costicchia un pochino. Vabbè, dai, ascolta, ve lo facciamo uscire in due parti. Soprattutto ci possiamo fare il doppio dei soldi, quindi perché no? È un po' la tecnica Kojima, diciamo, col Metal Gear Solid Ground Zero. Esatto, che è una specie di demo a pagamento che ha fatto cagare soldi in modo che si potesse fare visto che è ben voluto da qualche persona, sì. Anche da Konami stesso ultimamente, sì. Sì. Sinceramente un po' se l'è meritato, perché dopo Ground Zero sì, l'ho odiato profondamente perché due ore di gioco, ok che costava un po' di meno, però cazzo, quella era davvero ai tempi della PlayStation 1, quella era una demo. Né più né meno. Sì, sì, sì, e certo. Anche ai tempi della PlayStation 2, credo. E anche ai tempi della PlayStation 4. Ok, ok. Detto ciò, io mi controllo Star Citizen perché adesso mi è venuto il super dubbio. Sono 777 milioni di dollari. No, no, aspetta, al massimo saranno 77. Un utente spende 22.000 dollari per Star Citizen. Ah, faccio un pazzo completo. Ma dalle a me, Cristo. Vabbè, ma sarà stato l'amico suo Garriott che ce li ha i soldi. Si saranno scambiati un favore. No, perché poi Garriott, non so se ve lo ricordate, è andato nello spazio con i suoi soldi praticamente. Persona che con Ultima ha fatto cassa. Beh, Garriott assolutamente, ma penso che stia ancora facendo cassa da Ultima Online. Questo non lo so. Però comunque è una cosa, un punto che, vabbè, adesso dopo suggerisco un altro punto, adesso sì, inserirò. E no, però comunque riguardo a questo dei game designer e delle varie cose, insomma, hai citato dei nomi che sicuramente si sono distinti, ma anche per una capacità comunicativa. Ora, Westland sinceramente secondo me ha sfruttato un buon momento su Kickstarter, perché per quanto fosse un ottimo videogioco al suo tempo, non è che oggi lo ricordassero in molti. Cioè, sì, sì. Tra l'altro era anche abbastanza abbastanza hardcore all'epoca, era una buona cosa, non era così settoriale. Però cioè, non mi aspettavo questa risonanza. Poi ci sono stati altri esempi interessanti, per dire, vi ricordate quelli dell'Access Software che fecero la serie di Tex Murphy, no? Mm-hmm. Quindi Mean Streets, sì, Martian Memorandum, Under a Killing Moon, sì, che quando arrivò su PC sembrava che fosse arrivato un software alieno per quanto era evoluto. E quindi questi hanno cercato di riproporre il loro Tex Murphy e l'hanno fatto con risultati, insomma, pareri discordanti, però è comunque un progetto coraggioso. Cioè, secondo me il bello di Kickstarter è che tu, avendo, se lo interpreti correttamente, intendo dire, tu avendo una base di soldi che ti permettono, diciamo, di non andare in perdita nel tuo progetto, quindi minimizzi i rischi, puoi effettivamente fare qualche cosa che ti porta a arrivare all'essenza di quello che era il tuo vecchio lavoro. Cioè, intendo dire, oggi un'avventura con attori digitalizzati non avrebbe alcun senso, cioè nel senso, commercialmente è morta. Sei sicuro di andare in perdita? Sì, forse l'ultima grande avventura di questo tipo è The Last Express, che aveva sì, quell'effetto stile che era mezzo mezzo, diciamo, non mi viene in mente il nome adesso della tecnica, però sì, colori sì, sì, con l'acquarello sulla pellicola, diciamo, mettiamo esatto, esatto, però stiamo parlando già del 97-98, esatto, sarà la Sex Express, quindi insomma, cioè, insomma per me una vita fa. Per me sono 4 anni fa, non lo so, esatto, in realtà sono 15 abbondanti. E sì, quindi insomma, ecco, anche quello che dicevo prima dell'Obsidian Pillars of Eternity è una grafica, un'impostazione alla Baldur's Gate, se vogliamo generalizzare un pochettino, che oggi non porterebbe mai quei 7-8 milioni di dollari che il pubblico gli ha dato. Quindi bello, insomma, mi fa, credo che sia una cosa molto positiva questa possibilità di programmare e sviluppare senza rischiare. Quindi questo mi piace molto di questa situazione. Beh, perché senza rischiare? Cioè, in che senso senza rischiare? Perché tu i soldi ce li hai già. Cioè, nel senso, se io ti do 5 milioni per fare il tuo videogioco. Ma tu in teoria te li sei spesi tutti per fare il videogioco, non è più. Esatto, però. Sì, sì, sì. Però il problema dello sviluppo normale è che tu devi avere un budget per sviluppare un videogioco di 5 milioni, supponiamo, per fare il nuovo qualsiasi cosa esso sia. Okay. Poi devi vedere se recuperi quei 5 milioni dalle vendite e eventualmente avere un guadagno ulteriore se le cose vanno bene. Però il problema è che tu non puoi rischiare di perdere quei 5 milioni. Quindi stai un po' sulle tue. Se tu parti con 5 milioni in tasca e li usi tutti per fare il videogioco, ma anche se vendi 100 copie, sono 100 copie di guadagno. Quindi al massimo guadagnerai poco. Però non ci vai a perdere di tasca tua. Quello vabbè, certo, sì, è sempre un po' rischioso secondo me, perché in linea di massima non è, cioè, devi anche pensando al futuro, nel lungo periodo magari resti un po' fregato, non lo so. Sì, cioè, chiaramente devi cercare di essere un po' lungimirante, un po' se ti butti sì, a sì, pesce sì, così magari. Sì, assolutamente. Chiaramente se uno fa un tipo di sviluppo lo fa anche per crearsi magari anche i fondi per il progetto futuro e così via, senza passare sempre da Kickstarter. Però è comunque un sistema che può dare più coraggio, diciamo, ecco. Anche per generi morenti, poco alimentati. Però per i nuovi autori è poco, cioè non si, è difficilmente utilizzabile questa meccanica. Deve essere molto difficile. Deve puntare molto sul fascino che ha il progetto in sé, nella sì, capacità di presentarlo poi. Sì, sì, sì, è vero, assolutamente. Cioè, anzi, grossi progetti, francamente, manco me ne vengono, di videogiochi che sono partiti da Kickstarter senza una celebrità, senza essere precedente, già celebri come qualcosa, sì. Non so se ce ne sono, guarda, davvero. Perché per esempio mi viene in mente Gianna Sisters, che comunque era già vabbè, quel gioco. Sì, conoscevo, però. E anche cose più piccole tipo The Oregon Trail, era come The Oregon Trail, c'è comunque qualche richiamo, no? Dici, c'è un'idea che parta così pulita? No, c'era qualcosa, mi pare, aspetta, che... Su quello forse funziona meglio Steam... accesso anticipato, Light anche comunque, però sempre una spesa va fatta prima, però questo sì, riguarda più la distribuzione, diciamo, sì. Comunque ne approfitto per dire che in data 8 gennaio 2015 Star Citizen aveva superato i 70 milioni di dollari di crowdfunding. E adesso infatti mi pare di aver letto bene che adesso siano 90 milioni. Quindi, Madonna, le chiediamo scusa, l'abbiamo messo in dubbio. ragazzi miei, qui Sorry. E io per un attimo ho detto, cioè, stavolta l'ho sparata davvero, bro. Porca puttana. Stavolta mi invece scoprono. Stavolta mi scoprono. Invece avevo ragione. No, ma è impressionante. È veramente impressionante. Cioè, 70, io non mi ricordo quanto hanno sviluppato, quanto hanno speso per fare GTA. Ma mi pare tipo 100 meno, milioni. Non lo so, forse di meno. No, però sono tanti, 70 milioni, ragazzi. È un botto di soldi. Vabbè, dice che ci lavorano anche tipo 300 persone. Ma è un progetto del tutto nuovo? Oppure anche qui c'è qualcuno già noto per altri progetti? C'è allora, Mr. Wing Commander. Esatto, c'è Mr. Wing allora Commander sì, dietro. E hanno detto che la tecnica per... Cioè, com'è che hanno fatto così tanti soldi? Loro con Kickstarter hanno fatto 2 milioni e rotti. Il punto è che hanno continuato a fare crowdfunding in continuazione, cioè non è che non ho solo finito con Kickstarter, hanno continuato a farlo sul loro sito prima, dopo, durante, continuando a raccogliere soldi eccetera eccetera, e ci sono appunto quei pazzi che tipo quello che gli ha dato $22,000 mamma e mia. Dice che in media chi ha fatto crowdfunding, cioè tutte le persone che hanno fatto crowdfunding, hanno speso una media di $96 circa, che è tantissimo, che è più di un gioco, cioè è una limited praticamente, è una limited, è una limited fatta d'aria più o meno. Li avete visti i filmati dei, i primi filmati insomma del gioco? Io ho visti tempo fa, penso che ormai siano passati, siamo andati molto avanti, quindi non sì, un sì, sì, probabilmente a sì, fare un commento. No, ho visto, cioè, la cura dei dettagli è notevole, veramente. C'erano le astronavi che cambiavano, cioè i colpi sulle astronavi avevano un effetto molto realistico, molto credibile, per dire, a seconda del punto in cui venivano colpite cambiava la texture, e addirittura si poteva vedere, potevi bucare la navicella in alcuni punti e vedere lo spazio proprio roba da maniaci, insomma. E beh, direi, con tutti questi soldi, con tutti questi soldi, almeno l'astronave. Esatto. Non è che mi fai Richard Garriott così, o mi dividi il gioco in due parti, capito? Siamo, è rimasta ultima 9 Richard Garriott con il motore grafico. Madonna, buona, non mi ci pensare l'ultima 9. Ho proprio un ricordo stampato sulla mente. Figo, ultima 9, questa grafica 3D, vedo quella che si incastrava nel pavimento mentre camminava. Io mi salvai perché praticamente sul mio computer proprio non partiva, cioè è talmente buggato che proprio niente, guarda, lascia perdere, quindi non mi sono manco innervosito giocandoci. Ecco, bene, sì, potevi innervosirti, visto il problema, potevi innervosirti senza giocarci, che era anche esatto, più bello. Più sfizioso. Ma in generale comunque vedo che questi vecchi sviluppatori in generale hanno la possibilità adesso di slegarsi un po' dalla software house e di appunto, come dicevi, di starsene, di sfidare di più la sorte e di provare cose che altrimenti non avrebbero potuto provare solo con le loro risorse, diciamo. Però c'è anche quindi, un fatto, la sperimentazione che mi un po' mi manca, nel senso che ne so, Jeff Minter che ha prodotto varie cose, o lo stesso Gilbert, faranno comunque le stesse cose, cioè un giorno volessero fare un'altra cosa, che ne so, simulatore, come si chiama, quelli giapponesi, simulatori di appuntamenti, non so. Dating sim. Esatto. Non so se deve trovare da solo i soldi a quel punto. Non so se... Oddio, personalmente sarei curioso, forse... Io la dating sim di Jeff Minter la compro ieri. Infatti, sì, infatti sì, sarebbe spassosissimo. Con i cammelli che si accoppiano. Una corsa di auto, ecco, una cosa così. Belle le auto, dovremmo parlarne prima o poi. Prima o poi, sì. Proporrei anche sulla birra qualcosa. E anche sui giornali, loro uso creativo. Sì, no, infatti il problema del Kickstarter è che tu sei comunque vincolato a qualcosa di già popolare. La fregatura è quella. Ora sai, magari lo dice Jeff Minter, faccio il racing game, se non chiede $3 milioni, magari qualcuno lo finanzia pure. Però se è chiaro che questo è un blocco. Ma sono abbastanza evidenti i risultati ottenuti da giochi tipo Broken Sword 5 o che è praticamente un videogioco creato su, cioè è fanservice, diciamo, no? Quindi tu fai un gioco che deve piacere a quelli che ti hanno dato i soldi, che secondo me è un atteggiamento molto sbagliato. È come fare i produttori di un disco musicale, è sbagliato anche da parte degli utenti, perché io non voglio, cioè io, se magari rappresento una minoranza, ma se io ti do i soldi per farmi un videogioco, non voglio un videogioco che sia semplicemente qualcosa che mi aspetto, cioè vorrei anche essere sorpreso come magari venivo sorpreso 15-20 anni fa. Se eri uno che già sorprendeva tutti quegli anni fa. Sì, che a volte il pubblico è abbastanza, cioè molto conservatore, specialmente, insomma, il genere, facciamo un genere musicale, il pop vuole comunque la cosa, sempre la stessa cosa. Se, che ne so, Tiziano Ferro un giorno si mette a fare un disco con tutta musica sperimentale, cosmica tedesca, io non so se il pubblico gli va dietro. Allora ti rilancio su questa cosa. I Radiohead, per dire, con Kid A hanno fatto un album che era completamente, ma proprio completamente, completamente diverso da quello che avevano fatto prima. E da quel momento in poi sono stati ritenuti dei grandi, diciamo, dopo che i computer fecero quest'altro album, e da allora hanno detto vabbè, questi qua sono bravi perché riescono a variare in questa maniera così forte. È anche una questione di coraggio, secondo me, poi, cioè, se tu sei bravo e pensi di poterla fare bene una cosa, riesci a farla. Oppure fallisci, però è bello anche fallire poi certe volte, secondo me. Cioè, insomma, non fallire economicamente. Ma per Broken Sword, ad esempio, cioè io non, il gioco ce l'ho giocato, l'ho finito. Non è male, sì, è vero, hanno dato il contentino agli appassionati di Broken Sword. Sì, molte citazioni. Dei vecchi giochi, la capra, i tizi, questo. Anche quell'altro. Perché se, a proposito prima di Vastland 2. Ho letto con sorpresa recentemente che sono previste le conversioni per Xbox One e PS4. Ma come si fa? Cioè, nel senso, come lo faranno? L'hanno promesso. Ma si può fare? Hanno sempre fatto. Perché no? Scusa, l'hanno fatto per NES. Sarà fecero un po' scomodo. Sì, fecero Ultima su NES. Quindi, no, vabbè. Ultima, scusate. Sì, Ultima 7. Sì. No, volevo dire Elite. Quindi, Elite, sì, anche sì, Maniac Mansion hanno fatto da PC a NES, sì, ad esempio. E quindi me, però, se fai un gioco che è proprio per i tuoi fan, non puoi pretendere poi di arrivare anche su altre piattaforme con questa, non dico facilità, perché penso sia abbastanza complicato, però se è soltanto per loro non riesci a fare una cosa del genere. Lì sono tanti soldi, immagino. Sì, sicuramente. Ma non so, guarda, nel caso di Westland 2 io ce l'ho il gioco, quindi mi sembra complicato da gestire. In che senso? Ti è piaciuto? Guarda, a me è piaciuto abbastanza, ti dico la verità. Non ha avuto un'accoglienza, cioè non ti dirò mai, guarda, è il mio RPG preferito. l'ho trovato un po' troppo difficile, un po' troppo hardcore in certi passaggi per me, che non sono un giocatore super, diciamo. Però ecco, riconosco, cioè, ci vedo tanto impegno e tanta atmosfera no cyberpunk lì, insomma, post nucleare, sì, insomma, tutta quella cosa lì. Ti ripeto, non è un gioco che ti esalta mai in maniera esagerata, però secondo me è ben fatto complessivamente. Poi ti fa fare delle cose, ti rendi conto che puoi veramente cambiare le situazioni a seconda di come è il tuo personaggio, una cosa che poi in realtà tutti la decantano e poi in realtà pochi riescono a farla veramente. Però è stato più pompato di quello che effettivamente meritava questo. Ma secondo, non so se hai provato il vecchio, il precedente. Ma l'ho visto un attimo in emulazione un po' di tempo fa quando uscì sta storia di Westland, ma non ci ho giocato poi. È figa, il primo appeso adesso ti butta giù, che porca troia. Era il primo, è figa. No, pesante, cazzo, ho giocato adesso al primo, io sinceramente non lo farei. Forse neanche al secondo. Recentemente ho letto un post proprio di qualche giorno fa di Gilbert sul suo diario dello sviluppo del suo gioco, che si intitola Timberwheat Park, che sicuramente non si pronuncia così, che è quello proprio seguito spirituale di, sì, Maniac Mansion. Anche graficamente è proprio Maniac Mansion, fatto con insieme con l'altra persona che non mi ricordo come si chiama. Tim Schafer. No. Gary Winnick, l'amico Gary. Parlava proprio dell'ammodernamento dei vecchi sistemi di gioco, e lui si criticava dicendo che in quelle avventure si rischiava di arrivare in punti in cui non si sapeva cosa fare, oppure che il gioco non ti ricordava quali erano gli obiettivi, e invece nei giochi moderni queste cose andrebbero fatte, cioè il giocatore deve essere, non dico accompagnato per mano, però non deve essere abbandonato. Non so se con Westland 2 hanno portato avanti un concetto simile come cambiamento, soltanto hanno rimodernato la grafica o meno. No, è sicuramente più abbordabile rispetto al primo, almeno non mi ha dato la sensazione. È un RPG sicuramente più complesso e complicato della media, però non credo che sia così duro come il primo, ecco, diciamo. Sai che alla fine comunque dipende anche dai giochi, perché giochi come appunto Dark Souls, Bloodborne non ti aiutano per un cazzo, cioè non ti accompagnano da nessuna parte, anzi. Sì, sicuramente, però quindi, sai una cosa, non lo so, cioè nel senso, forse ricordano quello che dice Gilbert, è vero sino a un certo punto. No, però il fatto forse è l'utilità. Cioè, se a Wasteland 2, Wasteland 2 è inutilmente punitivo, più o meno sui Souls-like, come adesso si chiamano, i giochi come Dark Souls, è punitivo, però è severo ma giusto in qualche modo. Non è solo che sadismo e trattarti male, oppure come i giochi con 64 che c'erano in sparatutto, finirti, ammazzavano per forza perché non avevano fatto il resto del gioco. Ma e c'erano, sì, c'erano davvero. E invece lì forse puntare sulla difficoltà solo per la difficoltà, sì, è un concetto vecchio, e su questo forse, anzi sicuramente, è quello che diceva il buon Gilbert. Sì, qualcuno si è scannato su questo, per carità. Non so, guarda, però è una scelta, mi può star bene, voglio dire, è un gioco di quelle difficili, veramente difficili. I Souls io non li ho giocati sinceramente, però vedo che tanti li hanno completati, comunque tutti dicono che sono difficilissimi. Poi sì, ma già completarlo lo completi, dipende da quanto hai voglia di... Io l'ho completato il 2 e l'ho finito 5-6 volte, ed è raramente il gioco di ruolo io lo rigioco, perché questo invece, anche perché non è lunga tutto l'arco di una partita, sì. E, no, il gioco in sé non è lunghissimo, no. È arrivare e andare avanti, è una volta che ti prende la mano, sì, lo so. Sì, quello ce la non fai. Molli, io ho quel problema lì con Bloodborne ad esempio, cioè io mi rompo i coglioni a un certo punto di farmare in quella maniera. Con pochi risultati da subito. C'è molto forse farming. Sono più... dipende da quanto sei bravo. Secondo me, se hai già giocato, adesso cambiando argomento, parlando di giochi decisamente non da crowdfunding, se sei bravo con Dark Souls, Demon Souls, eccetera, eccetera, quel gioco lì non è un problema. Farmi un pochettino all'inizio, poi va liscio. Superato il primo step. Se invece come me cioè io ci ho giocato a Dark Souls 1, ho provato Dark Souls 2 e li ho sempre mollati dopo 6 ore tipo di gioco, non, perché proprio mi sono sfracellato i coglioni, detto alla francese, ma piallato, mi ha fatto piatto come bambole, le frappelle Bologna. Esatto, purtroppo sì. E idem in questo caso qui, la cosa si ripete anche qui. Adesso mi sono bloccato perché mi stavo rompendo di nuovo i coglioni, però magari sono io che sono il problema, non è il gioco che è non essere ben fatto, anzi il gioco è estremamente ben fatto nel suo genere, lì ti lascia un po' quella libertà, quel mix tra non ti dico cosa devi fare, lo devi scoprire da solo, e ok, guarda, ti do un aiutino qui che così non esci di testa, che secondo me è il compromesso ideale. Però anche lì devi essere bravo tu. Quelli della From Software sono bravi perché sanno il fatto loro, perché sono ciapuness, e quindi ok, ci riescono. Nel caso dei vecchi giochi, allora lì a volte si finiva, io faccio sempre l'esempio di Monkey Island 2, dove tu rimanevi bloccato quando dovevi cercare una chiave inglese. Faccio l'esempio di un problema di traduzione, ad esempio. Se dico un'altra volta esempio, picchiatemi. Comunque, in quel caso lì tu dovevi utilizzare una scimmia come chiave inglese, perché in inglese, chiave inglese si dice Monkey Ranch. Quindi quel gioco di parole lì ti permetteva di andare avanti. In italiano questo gioco di parole lì non risulta, e quindi tu rimanevi piantato e non c'era nessun modo per superare la cosa. Questo ad esempio è un problema di localizzazione, in questo caso, che essendo un gioco di parole in lingua originale è difficile da sistemare, ma questo, altre 10.000 cose. Gilbert faceva riferimento proprio a questo, anche perché lui ci dava l'esempio su Monkey Island 2. C'era un dialogo con un personaggio che dava dei compiti. Però una volta affrontato questo dialogo, se ci si riparlava col personaggio, non dava più questi compiti, quindi o se uno se lo ricordava oppure rimaneva così. E questo, diceva, questo è uno dei quei difetti che non si deve più ripetere, perché giustamente, ho capito, vogliamo che il giocatore stia attento, però è inutile non dargli la possibilità, che ne so, di parlare con questo, o mettere una cosa spiritosa che dice: ah, ancora sei qui, mi hai portato questo e questo, che ti ricorda quello che devi fare. Beh, nel giorno del tentacolo, per la parte subito all'inizio, quindi diciamo che non è un grosso spoiler, non lo considero uno spoiler in generale, neanche dire il finale del gioco, però comunque per accedere al laboratorio tu devi entrare nel vecchio orologio a pendolo, ok? Se tu hai giocato a Maniac Mansion questo lo sai, se tu non hai giocato a Maniac Mansion e non è detto che tu l'abbia giocato, perché io quando ho giocato a Devil the Tentacle non avevo assolutamente giocato a Maniac Mansion, non pensavo neanche che esistesse ed era anche un'avventura completamente diversa. Tu dovevi andare in giro finché non scoprivi che dovevi aprire il pendolo e entrarci dentro. Ed è un pendolo, quindi non è che tu... Non c'è senso. Ti viene in mente, sì, cioè dici, vabbè, in questo pendolo qui ci devo entrare. Allora, sì, ok, lo esamini, devi un po' romperti il cazzo, alla fine ci arrivi, ma devi stare lì a romperti le balle in una maniera tale che secondo me all'inizio soprattutto è un po' frustrante per il giocatore. Quindi appunto Gilbert... ha ragione se si pone la cosa su certi tipi di giochi, perché appunto secondo me la cosa non vale per i vari Soul, Bloodborne eccetera. No, vabbè, o meglio, non ce n'è più bisogno, sì, con quel genere, sì, lì, ecco, non c'è bisogno di dare quelle indicazioni. In altri giochi c'è bisogno delle indicazioni, tante anche, a persone tipo me che sono fondamentalmente stupide, quindi... Insomma, bisogna darsi una mano. Darmi un incontro. Dai, posso avere la fortuna che hai avuto tu. Comunque ho scoperto una cosa, non posso scrivere sul documento della puntata, quindi quel punto che volevo proporvi, lo propongo a voce così. Proponi la voce. Noi allora, stavo pensando in occasione di questa puntata che... questi Kickstarter che riesumano, diciamo, questi game designer permettono una cosa che altrimenti forse ci sarebbe preclusa, cioè quella di capire come un game designer lavora invecchiando, cioè noi siamo una generazione fortunata sicuramente perché abbiamo vissuto le varie tappe del videogioco in diretta, diciamo, no? Quindi mentre si evolveva nelle parti fondamentali della sua storia noi c'eravamo. Chi con qualche anno in più, chi con qualche anno in meno, però per dire un diciamo uno dei programmatori ancora attivi tipo Richard Garriott, che hanno cominciato nel 79 a fare videogiochi, oggi lavorano ancora, quindi loro sono cambiati, noi siamo cambiati, e secondo me è molto bello, non so se si può dire antropologicamente in questo caso, però è molto bello vedere come ci troviamo oggi, no? Cioè che cosa pensa lui, che cosa ci vuol proporre lui a 50 anni suonati e che cosa piace a noi. E lo stesso per Warren Spector, e lo stesso per tantissimi altri. Quindi, perché altrimenti siamo tutti legati a una generazione di programmatori che è intorno ai 30 anni di solito, 30, 40. Quando noi eravamo ragazzi che giocavamo sulle Amiga c'erano i Reflection che erano tutti minorenni e hanno fatto Shadow of the Beast, per dire. Quindi... è bello vedere anche questo. Probabilmente qualcuno di questi nomi non sarebbe stato Brian Fargo, per dire, di Westland, da solo forse non sarebbe riuscito ad avere un progetto tale da dimostrare quelle che sono quella che è la sua visione del videogioco, condivisibile o meno, scelte sbagliate o meno, però è bello vederlo, è bello che ci siano questi esempi, secondo me. Non so che ne pensate voi di questo fatto, no, anche se escono cagate a volte, però sembra che loro sì, il fatto legato al primo al discorso del cambiamento, poi comunque si ripropone, non dico sempre la stessa cosa, però quello che gli piaceva fare quando hanno cominciato o quello che li ha resi famosi. Non so, un esempio di uno sviluppo completamente diverso col precedente non mi viene in mente. No, c'era... quello probabilmente non c'è. Lo stesso mi viene in mente David Crane, che fece un progetto che non raggiunse gli obiettivi su Kickstarter, l'autore di storico di giochi per Atari 2600, ha fatto Ghostbuster, ha fatto Pitfall, una marea di altri giochi. È un gioco che si intitola, leggo dai miei appunti, Jungle Adventure, e già dal titolo Pitfall si può capire dove andava a parare, sì. Forse il sistema di gioco poteva essere una rivoluzione però sì, la rivoluzione che ci può essere rispetto a quello che c'era prima era come passano gli anni e come lo vedi, però forse si vedeva più sulla scrittura che sulla creazione anche, però non so. E lì, guarda, io ti dico che non mi è piaciuto davvero la campagna di quel progetto. A parte il fatto che non si capiva che gioco, sì, che gioco era, sembrava un Pitfall senza la licenza di Pitfall, proprio con una grafica. Beh, come John Assist era la Super Mario senza Super Mario. Sì. Però, diciamo, vabbè, almeno si è voluto John Assist. Si è voluto un pochettino. Però lì non c'era niente fondamentalmente. Chiedevano una cifra assurda, perché se non sbaglio erano 400.000, mi pare, dollari. Cioè, abbastanza alta. Cioè, per un gioco così. E ci stava David Crane scazzatissimo nell'intervista durante il video, che sembrava non interessarsi minimamente del gioco. E cioè, non ti veniva proprio voglia di metterla, di finanziarlo, insomma. Invece, se mi dateci due soldi, vi scrivo. Sì, ma tanto lui ce ne avrà tanti, probabilmente. È sempre così, devo fare, d'altro. È sempre Pitfall, ma che figa, no, però figa, non lo so, se poi c'è tutto per lui il gioco è Pitfall, cioè non vorrei che sia questo il discorso, però mi sembra strano che sempre Ghostbuster è riuscito a fare una conversione, un tie-in, che era una simulazione di gestionale di Ghostbuster, ed era successivo, tra l'altro. Ma poi Crane fece anche un gioco bellissimo che si chiamava A Boy and His Blob. Su NES, che era molto originale ed era già arrivato un po' più avanti, quindi insomma erano gli anni 90. No, secondo me gli avranno proposto forse anche un team esterno di fare un nuovo Pitfall, diciamo così. Lui ci ha messo la faccia, ma gli avrà detto datemi 200.000 dollari, con gli altri 200.000 ci fate il gioco. E così, non sembrava entusiasta nemmeno lui stesso, insomma, della cosa. Quindi non mi ha sorpreso che abbia fallito, sinceramente. Così come non mi hanno sorpreso, per dire, i primi tentativi della Cinemaware di fare il remake di Wings. Quindi sti nomi che ritornano dal passato proponendo ancora solo esclusivamente il passato, cioè l'illusione di una novità, di un progresso la devi dare in ogni caso, altrimenti che ti chiede a fare i soldi, cioè che mi chiede a fare i soldi, devi fare qualcosa in più, secondo me. Ma quello sì, cioè nel senso devi è come un progetto economico, come se stai avviando un'attività tra virgolette e certo, stai chiedendo dei tuoi finanziatori, cioè devi convincere i tuoi finanziatori a darti quei soldi. Mm-hmm. Quindi giustamente se tu fai una schifezza i finanziatori non ti daranno i soldi, come non lo so, o una banca, ecco. Se una schifezza e dici guarda io adesso tiro su un banchetto e riparo i computer, ti dicono beh magari no, cioè fallo a casa tua piuttosto, non è che lo fai per strada, non te li diamo i soldi per farti il banchetto. Però Kickstarter è sostanzialmente tutto valore aggiunto, cioè il David Crane o Richard Garriott sono il valore aggiunto di un gioco che tu non sai se uscirà, se non uscirà, non sai come saranno verrà tecnicamente, è soltanto l'aura che ha il gioco. Una banca di soldi soltanto con l'aura non credo che li dia, vuole anche le garanzie. Cioè, ora sì, soprattutto. Sì. E quindi non so. Si rimane così. Si rimane così. Si rimane così, senza un perché, senza parole. Senza parole. Mi va bene così. Benissimo. Detto ciò, io direi che passiamo all'altro punto, ovvero, sebbene sia vero che il mondo indie è pieno di giochi che si assomigliano molto nelle meccaniche e nelle tecniche di realizzazione che ricordano le vecchie produzioni, non possiamo tenere in conto il fatto che negli ultimi 20 anni i giochi siano cambiati. Quindi, appunto. No, ma questa persona qua l'ho già fatto. Pizzi, tagliala. Cazzo, ne abbiamo parlato no, prima. Ma guarda, qui. Ma possono trovarsi oggi persone che sviluppano giochi, avventure grafiche o altro, a confrontarsi con il mondo di oggi. Qui ti dico, devi sottolineare avventure grafiche, perché c'è un segreto poco segreto che devono sapere gli ascoltatori di PN. E c'è che Pizzi odia Jane Jensen. Cioè, la odia proprio, non la sopporta quella più. Di Gabriel Knight. Ma non per Gabriel Knight, per tutto quello che ha fatto dopo. Tipo, se senti l'ultimo Calavera Café, ne ha cantate di tutti i tipi. E quindi lui voleva sicuramente in questo punto che noi parlassimo male di Jane Jensen. Io ne ho ben d'onde. Francamente. Per come mai? Buongiorno Marco. E buonasera. No, avevo giocato. Tu ti fermi lì. Sì, ho giocato a quel gioco che era uscito su Xbox. Credo sia fosse suo, quello della prestigiatrice che gioca con le carte. Credo fosse suo. Grey Matter. Sì. E bel gioco, non è dispiaciuto. A me è piaciuto molto, ti dico la verità. Quindi non posso dire. Però a proposito invece di Roberta Williams, mm-hmm, cioè di una persona che, questa è un'intervista un po' vecchiotta, che parlava della differenza nell'ambito dei tempi suoi, quando faceva i vari giochi che adesso non mi ricordo mai, King Quest, tutta la serie, sì, no, ecco, la soprattutto serie, sì. E uscì una spiegazione quasi di materialismo dialettico, nel senso che diceva che una volta chi aveva i giochi per chi aveva i computer era gente molto, cioè gente danarosa, che poteva comprarsi i giochi, aveva il tempo per interessarsi dei piaceri non immediati, e poi col tempo il prezzo dei computer è sceso, i computer sono stati per tutti, gente normale può giocare, e a gente normale gioca agli sparatutto, ai giochi di combattimento, e ha portato sul computer la loro visione da console. Diciamo un po' forte come cosa, forse anche non del tutto sbagliata, però non so, un po' decisa. Non so tanto d'accordo con questo io. Cioè, nel senso che secondo me in questo momento soprattutto noi abbiamo un panorama videoludico dove possiamo trovare quello che ci pare, semplicemente. Poi è chiaro che nel momento in cui tu sviluppi uno sparatutto tipo Call of Duty, che sai che male che vada venderà 10 milioni di copie, hai una visibilità, anche spendi dei soldi di marketing che non sono paragonabili a nient'altro, quindi è normale poi che il mondo console vada ad influire quello che è il mondo computer. Però se andiamo a vedere il mondo computer adesso, ci sono generi che sono morti, che erano morti da 20 anni, che sono esplosi. Per dire, il roguelike esiste dall'80, sì. non si sono mai visti roguelike quasi per 30 anni, perché chi si va a prendere un videogioco 2D con niente di spettacolare? E invece oggi, siccome un roguelike lo puoi vendere anche a 5 euro e magari qualcuno te lo compra, è riesploso. Quindi le avventure grafiche nel 2000 erano stantie veramente. E oggi abbiamo gente che le finanzia su Kickstarter, gente che parte da zero e si fa le avventure grafiche. Sì. È molto frizzante il mercato, diciamo, computer. E se parliamo, era un po' di qualche anno fa, quindi non c'erano stati i Telltale, sì, non c'erano stati questi sviluppi. Lei era molto pessimista. Da Telltale che un po' si è ripreso. E Telltale, tra l'altro, hanno pubblicato senza Kickstarter, da soli, insomma, sì, tra parentesi, certo. Ridando, cioè con giochi, hanno ripreso Sam & Max, hanno preso certo, una serie di licenze, e Monkey Island, una cosettina. Però guarda come buffo, non hanno fatto neanche schifo. No, anzi. E hanno riportato, mi sembra che no, non solo loro ovviamente, però anche loro hanno contribuito a riportare in vita il genere. Poi comunque se si fanno dei giochi su dei telefilm di grandissimo successo come Age of Thrones, Game of Thrones. E vabbè, sono tutti uguali, sempre medievale, gente che si zaccagna, e comunque sono roba di grande successo popolare, e lo sfruttano, e evidentemente la gente lo prende, è pop, ecco, diciamo così. Non è la persona che si chiude in cameretta e sta lì, no, pure, però certo, non è soltanto quello. Però guarda com'è cambiata la situazione. Cioè, Roberto Williams qualche anno fa indicava come il mondo dei console stesse contaminando i computer. Oggi secondo me invece è proprio il contrario. Cioè, oggi su console tira tantissimo l'indie, che è di derivazione 100% computeristica. E per dire, prima abbiamo fatto l'esempio di Westland 2, che forse verrà convertito su PS4, che siamo proprio all'estremo in questo senso. Sono quindi contentissimo di questa cosa in generale. Speriamo. No, ma anch'io, ma io sono un PCista molto, molto convinto. Sta aperto, diciamo. Sì, no. Aperto, e anche, cioè, mi piace che la piattaforma dove si sperimenta, insomma. Beh, però ecco, sì, comunque, ritornando alla domanda di Pizzi, capisco che qualche game designer possa avere qualche difficoltà oggi a confrontarsi con un mercato completamente diverso. Jen Jensen, secondo me, in effetti sta perdendo qualche colpo, perché a parte Grey Matter, che in realtà è del 2001-2002 sì, come avventura, poi l'hanno portata con grandissima fatica avanti, e le altre, Moebius mi dicono, non l'ho giocata, che fa un po' schifo, e il remake di Gabriel Knight è un remake di Gabriel Knight, voglio dire, che stiamo parlando di chissà quale miracolo della tecnica e dell'inventiva. Poi per il resto, insomma, c'è stato qualche passo, a me, per dire, Cognition, che è stato un po' pompato, non mi è piaciuto tantissimo. Insomma, e si invecchia, a volte l'invecchiamento può portare delle idee nuove e interessanti, a volte semplicemente ti toglie della creatività. Questo penso capiti un po' a tutti, però. E a chi lo dici? Preferisco che la ci provino. No, ok, ma no, sì. Va bene che ci provino, l'importante è che non lo facciano sulle spalle, troppo almeno sulle spalle, che non troppo spudoratamente di chi gli ha dato dei soldi, vabbè, però chi ha dato sapeva più o meno quello che cui va incontro. No, quello che, ma dico che il prodotto finale sia quello che ti hanno detto. Cioè, vabbè, tu hai contribuito per ottenere questo e hai ottenuto un'altra cosa. Ok, cioè, o meglio, hai ottenuto delle cose parziali di quello che hai chiesto, hai ottenuto appunto una cosa divisa in due, hai ottenuto insomma tutto l'ambaradan che vuoi, eccetera eccetera. Quello insomma non fa girare un po' le palle, per quello non sono totalmente, o meglio, io personalmente prima di dare dei soldi a un progetto di Kickstarter ci penso due o tre volte, cioè devo essere sicuro che sia fatto da gente seria. Cioè appunto mi dici Star Citizen è arrivato è talmente tanto grande che butti una goccia in quell'acqua, in quel mare, non succede niente. Come dire, va bene così, il gioco esce. Sì, penso, spero proprio di sì, guarda. Visto, se no, non so. Temere in teoria. È tipo il PIL della Grecia, il budget sì, di impressionante. Almeno penso che potrebbero tranquillamente dare una mano alla Grecia direttamente. Anzi, dovrebbero farlo a questo punto. Non sarebbe una cattiveria. Quindi appunto anche lì bisogna tenere un po' d'occhio la faccenda. E niente, scusate l'interruzione. Tranquillo. Non so, dicevamo, chi stava parlando? Non mi ricordo, stavo parlando io comunque. Che tu hai dato $22,000 per Star Citizen? Io sono quello che ha dato $22,000, infatti adesso sono, cioè già prima ero un paziente, adesso sono un super paziente, perché gli ho chiesto in prestito, no? Capito. Però quando quindi è rimasta Citizen non avrei soldi per giocarlo, perché non avrò un PC su cui farlo girare. Ma chissà che infatti lo volevo chiedere, $22,000. No, ma non mi ricordo. Ti danno $22,000 di giochi, cioè tutte copie sì, del gioco. Non so, poi te lo puoi rivendere. Magari ti danno 22.000 limited, te le metti tutte in giro, in vendita, tutti uguali. O per tipo 20.000 tutti digital, sì, the library, tutti download. Incedibili poi, perché già c'è il nome. Incedibili. Solo tu ci puoi. Esatto. Quindi appunto, questo collega un po' il punto con i fallimenti storici, come ad esempio quello di Dinodini. Ma volete parlare voi del fallimento di Dinodini per caso? Che si è dato alla musica, ma io farei parlare no, Marco, ma io ne parlerei, non voglio, perché lo conosco da piccolo, parlare. Quindi no, poi prende sul personale. No, Dinodini ha iniziato un progetto con Kickstarter, il progetto è andato a farsi benedire, lui, anzi no, meglio, lui ha detto, beh ragazzi, sapete che c'è? E mi sono rotto il cazzo, vado a fare musica. Ho mollato tutto e si è messo a fare la musica e pompa e non so non lo so sinceramente, non, adesso io forse preferisco Dinodini come programmatore piuttosto che come musicista, credo, adesso, o meglio non lo vedo come musicista. Dinodini perché non è diventato molto famoso nella musica, non lo so, mondiale, diciamo che ecco, non è che ho sentito gente che mi ha detto devi assolutamente sentire l'ultimo disco di Dinodini che è splendido, guarda, cioè, non mi interessa se non esce quello di Tool, l'importante è che esca il nuovo di Dinodini, cioè, con un nome così figo tra l'altro, scusate, infatti sì, con dei genitori così crudeli tra l'altro. Anche un altro grande successo è stato quello del remake di Night Trap, il gioco in film interattivo, insuccesso. Cioè in doveva essere il remake in HD, in high resolution, del gioco che all'epoca fece varie rimostranze anche politiche negli Stati Uniti, perché era indicato come tutto l'esempio del male nel mondo che corrompeva i giovani, e non ci sono riusciti sostanzialmente, anche perché era piuttosto fumoso come progetto. Anche qui dicevano che avrebbero convertito su qualunque macchina possibile e immaginabile, ma non ci sono riusciti, non era il caso di attrarre, quindi anche questo non ha raggiunto l'obiettivo. Dovrete giocare con quello pixelloso in qualche modo. quello vi meritate. Sì. E poi soprattutto se lo giocavi su Mega CD con, like, con i filmati con tre colori in croce. Secondo me, cioè, nel senso, anche rifarli in HD, il gioco più o meno resta quello. Quindi, non è che fosse ore e ore di divertimento assicurato per tutta la famiglia, mettiamo così. Cioè, poi l'interattività, guarda. No, beh, è un gioco che a suo tempo era molto interessante, molto innovativo e tuttora certo. Magari va provato, però cioè, ci giochi una volta... è finito lì, non è che non vedo l'ora di rifarmi una bella, adesso torno a casa e mi faccio una bella partita nei tre. Sì, quello sfruttava l'effetto wow figo, ci sono i filmati, pare vero, pare la realtà. Sì il futuro è arrivato, finalmente cazzo, il futuro è arrivato, quindi no, è giusto, è inserito nel suo periodo storico, sì, però certe cose dovrebbero rimanere dove stanno. Esatto, no, il fallimento era io al posto loro non mi sarei, piuttosto avrei provato a creare un'altra cosa o a fare una versione più particolare, inserire delle altre cose, cioè un ma semplice poi, remake, cioè io mi domando, no, cioè fai un remake in HD, cioè che fai, prendi i filmati che erano in SD, li metti in HD, sì. Sì, ma quanti soldi vuoi per fare un lavoro del genere? Ce lo faccio io se vuoi con... No, ma penso che volessero farlo. Introdurre... Forse rifare, no, forse rifarlo. No, pare che fosse soltanto rifare le riprese. Forse la versione in HD. Che schifo. No, allora così... Non so, cioè, se erano tipo $400,000, una cosa del genere. Ti apri Adobe... come si chiama... Premiere, ti fai salva con nome con un'altra cosa sull'altro formato. No, così no, ragazzi, dai. Cioè, non prendiamoci in giro, quelli sono fallimenti in quel caso lì giusti, cioè sono esagerati, sono delle cose esagerate. Al contrario, su Kickstarter invece sono comparse delle cose incredibili, tipo quello che ha preso non mi ricordo quanti soldi per fare l'insalata di patate. Tipo ha fatto un crowdfunding per dell'insalata di patate, mi ricordo. Ha fatto un pacco di soldi, ha detto beh adesso vi faccio il risultato, è che io farò adesso, mi aiuterete a fare questa insalata di patate, si era fatto un sacco di soldi. Lo posso ricordare un altro fallimento che mi è dispiaciuto un pochettino, prego. È quello di The Seventh Guest 3. Altro che mi è venuto in mente perché stavamo parlando del fatto dei giochi digitalizzati, insomma tutta quella roba lì con gli attori, e anche questo qua l'avevano, si era avvicinato abbastanza al suo obiettivo la prima volta, l'hanno provato due volte e il primo obiettivo era $435,000, non ce l'hanno fatta. Il secondo era di 65,000, no, non ce l'hanno fatta. Vabbè, 65,000. Però almeno ci hanno provato. No, secondo me non è una cifra così, cioè per il prodotto, sì. Pensate. No, però The Seventh Guest era anche giusto, ricordiamo, sì, questa avventura grafica appunto a stile The Ripper, stile, ed era fatta anche dagli stessi, mi pare, The Ripper. Penso di, non so sicuro. No, penso di no. Penso comunque di quel filone lì, fantasmagoria, quelli vari ed eventuali. Horror, sì. Horror un po'. L'orrore. Sì. Punto e clicca, stile Mist. La casa stregata, tutte queste robe qua. Ed era bello comunque. Sì, era molto. In quel periodo lì, secondo me, è ancora passato troppo poco tempo prima che la gente si interessi nuovamente a quel tipo di avventura grafica. Già è passato un bel po' di tempo prima che si interessasse alle avventure grafiche e basta, cioè così pulite, figuriamoci quelle così particolari come quella lì. Lo so, però purtroppo guarda, ecco, c'ho sta fissa filologica, io uso parole a caso, non ci fate non contatele questa soluzione fisiologica che, cioè, per la quale mi piacerebbe vedere lo sviluppatore di The Seventh Guest dopo 20 anni che è uscito Seventh Guest, che cosa fa per il giocatore moderno. Queste cose qua mi attizzano un sacco e purtroppo non vedrò questo Seventh Guest 3. Per dire, Tex Murphy, che ha fatto un po' la stessa cosa riuscendoci, però è stato piacevole insomma vederlo spuntare, quindi vabbè. E magari ci riproveranno. Sì, esatto. Ma sì, è vero, quello di Tex Murphy effettivamente. Ma non so se gli hanno avuto culo o se aveva una fanbase. Ma lì secondo me c'è il fatto che faceva, è un personaggio simpatico, viene proposto come una cosa simpatica, la cosa simpatica tu la finanzi più volentieri a volte, no? Quindi sì, è un po' più ignorante, diciamo, Tex Murphy come progetto rispetto a The Seventh Guest. Beh, Laser Suit Larry anche era sì, stato il sì, reboot, mi pare che anche quello fosse stato... Ha un remake, mi pare, soltanto. Era solo un remake quello? Sì, se non sbaglio era, io non ce l'ho, però era proprio il primo gioco rifatto. Senza ah, grandi... sì, sì, era il reboot della... Ok, no, era il reboot del primo. Quindi non è, cioè, lì sapevi veramente a che cosa aspettarti. Ora magari puoi sperare che la grafica sia un po' meglio, un po' più curata, però diciamo poi chi ha finanziato sapeva perfettamente cosa, cosa ritrovarsi tra le mani. Sì, sì, sì. Esatto. Bene, io direi, non lo so, più o meno direi che ci siamo. Abbiamo raggiunto il metraggio richiesto dal signor Pizzi. Di birra non volete parlare, quindi niente. Ce lo lasciamo per un'altra volta. Ce lo lasciamo per la prossima puntata. E niente. Piccolo Marco, tu hai qualcosa da dirci? Vi saluto tutti. Siamo i saluti? Allora, sì, vi saluto. Cosa dire? Andate su Kickstarter e finanziate il mio progetto. Esatto, poi me lo invento. Prima o poi faremo, io l'ho sempre detto che bisognerebbe fare un progetto su Kickstarter e vedere come va, perché la cosa buona di queste cose qui è che comunque, male che vada, non c'è perso niente in teoria, cioè a parte del tempo. Sì, ci sarà una quota di submission della pratica forse. Che penso Kickstarter lo faccio per la gloria. Non ne ho idea. Tipo su Greenlight ci stanno tipo, mi sa, $90 per mettere il gioco. $80-90. Non ne ho idea. Boh, no, sinceramente non ho una cosa, bisogna trovare un'idea buona. Punto aggiungerei anch'io sì, senza scrivere. Pensando a Jeff sì, Minter, come si è incavolato, è rimasto deluso dai giochi fatti sui mobile. No, questa cosa è generale, cioè c'è un po' un disincanto verso queste piattaforme o no, secondo voi? Secondo me, cioè, secondo me, cioè, nel senso proprio parere mio personale, non sono un grande supporter del mobile, cioè nel senso io gioco sul telefono quando sono al lavoro e devo aspettare 2 ore per qualche ragione, gioco a Kingdom Rush, per dire che è un tower defense. Ah, però, bellino Kingdom Rush però. Bellissimo, bellissimo, però è un tower defense, cioè mi dà fastidio quando poi si va a investire per un videogioco più importante perché poi esso sia fruibile su tutti i tipi di dispositivi. Per dire, se mi fa la Telltale, l'avventura grafica pensata più per l'iPad che per il PC, mi dà un po' fastidio, ecco, in questo senso. E quindi capisco chi si arrabbia pensando che poi alcuni generi videoludici vengano semplificati in maniera molesta per andare incontro a un pubblico più ampio e piattaforme che non hanno la stessa tipologia di controlli dei PC, quindi insomma richiedono qualche semplificazione in più. Sì. Bene. Ok. Allora, infatti, dici tutto. Io giochi solo io sul telefonino. Se lo sai. Io gioco esclusivamente sul telefonino. No, non è vero. Io sul telefonino, a dir la verità, forse gioco un pochettino ai giochi quelli. No, gioco da un po' di tempo a Castle Clash. Uh-huh. Castle Clash, oddio, cioè mi sono anche dimenticato Clan of Clash. Aspetta, adesso vi dico il nome giusto. Clash of Clans. Clash of ecco Clans, com'è. Sì. Ormai da quasi un anno forse. Però sì, sono quelle cose lì che se non sei, cioè io non gli ho mai dato un soldo a questi. E tutto sommato per l'impegno che mi chiede glieli posso anche dedicare 5 minuti al giorno, ecco, più di 5 minuti al giorno, sì, però infatti mi rompo le palle. Gli altri giochi a cui gioco sono tendenzialmente, mi è capitato di giocare a qualche avventura grafica per l'ennesima volta, io più o meno la rigioco ogni anno a Day of the Tentacle, ma adesso che hanno annunciato, poi dopo hanno annunciato la Special Edition, non ci gioco da un po'. Cioè quest'anno l'ho lasciato stare, ho detto, ti conservi l'hype per l'uscita, esatto, ufficiale, il finto hype tra l'altro, so benissimo e se mentre tu giochi alla Special Edition arrivi al pendolo, tu ci vai ditto sparato e ti dice che non puoi entrare nel pendolo, che proveresti? Proveresti. Cosa vuoi che provi? Gli cerco la mamma, come si fa dalle mie parti. Più la sicurezza, più la certezza. No, la certezza assoluta che gli cercherò alla mamma. Guarda, no, dovrebbe essere come Monkey Island Special Edition. Sì, no, sicuramente. Uguale, era per dire, però per favore, remake è cambiato. Però non mi dispiacerebbe. Ma se anche alla fine non sarebbe neanche male. Comunque, se cambiassero qualcosa, sarebbe un po' più quello spirito di scoperta, un po' aggiornato. Quindi non dovrebbero neanche stressarmi troppo. In teoria. Hanno fatto una cosa del genere in Gabriel Knight, il remake appunto, dove almeno io mi ricordo, ho notato soltanto questa differenza, diciamo grossa tra virgolette, in cui c'era una parte nell'originale dovevi vendere un quadro per avere una determinata cifra, una somma di denaro insomma, che ti serviva più avanti. Invece nel remake si fa un'altra azione, adesso non mi ricordo precisamente cosa, ma è diversa e mi c'ero bloccato infatti. E l'ho dovuta risolvere quindi ecco, insomma, a volte c'è questa, hai ragione quando dici che può essere piacevole, perché per me è stato piacevole. Dicevo, in effetti non è cambiato il gioco, è sempre il remake di quello, però questo dettaglio che mi costringe a soffermarmi di più anche sul gioco. Se tu pensi che la settimana enigmistica, tu compri la settimana enigmistica, non ci sono sempre gli stessi crittogrammi anagrafici, cambiano sempre, non si risolve sempre allo stesso modo. Ah, che nostalgia quello del 1952. Quella domanda della Susi che tanto il 28 orizzontale, e quindi no, però dipende. Comunque non è vero, non gioco solo su mobile, gioco su PlayStation 4, su PS Vita. Punto d'onore, devi specificare. Specifichiamo poco pochissimo su PC ormai. Prima giocavo solo ai MMORPG. Su PC adesso è terribile quello. Sì, ebbene sì, e agli emulatori. Tendenzialmente PC lo uso per gli emulatori, per vedere i film e per registrare i podcast, tra l'altro. Sempre stato, cioè, fondamentale. Sì, no, in realtà il punto è che sono un giocatore, nonostante abbia una buona conoscenza del PC e il livello hardware e software, mi rompo estremamente i coglioni ad aggiornarlo. Quindi a stare dietro alle cose, scheda grafica qui, modifica, prendi, fai, eccetera, eccetera, per giocare su PC rosicherei, cioè se ci gioco ci voglio giocare bene. Quindi devi stare dietro un po' all'hardware, a spenderci dei soldi e così via. Uno, non c'ho soldi. Due, non c'ho voglia. Quindi le console sono la soluzione migliore, perché tanto più di così non può andare. Ma meno di così casual neanche. Gamer, sei un po' così... È offesa gravissima. Ha giunto proprio, è rimasto colpito. C'è rimasto, sì, infatti. Sono un po' rimasto. No, quindi il PC appunto viene relegato tendenzialmente all'emulazione. E anche le console a volte, quando è possibile sfondarle in qualche maniera, e poi appunto un po' di tablet, un po' di giochi così, ma quelli davvero sono, è raro che mi dedichi in maniera da seduta, diciamo. Sì, sono proprio giochi da seduta, quindi per me il mobile è sempre un po' l'ordine a quei momenti. Sì, un po' da seduta, un po' da viaggio, ecco. Il mobile fa cagare, è consigliato dal migliori... anche il mobile è cagare, sì. Dei migliori proctologi di tutta Italia. Il mobile è cagare, possiamo dire. Adesso mandiamo un tweet a, come si chiama, a quello che avete nominato prima, che non Jeff mi ricordo, Winter. Si è incazzato con... Sì, lui diceva più che altro per fare, esatto. Che non ci si era trovato bene, non tanto per il gioco quanto per come l'ambiente, insomma, e diceva tanto lavoro non retribuito, o comunque non, che non rientrava delle spese. Allora non li fai, ok, allora non fai il infatti gioco non li mobile, fa più, non rompi i coglioni a noi. Ecco, esatto, la soluzione, no, boh, è giusto anche provarci. È comunque un guarda quello che ha fatto Flappy Bird, che è una merda, si è fatto un pacco di soldi, esatto. È fuggito, di sicuro lui non penso che abbia impiegato tutto questo tempo, un team di persone per questo suo gioco di successo. Cioè, era lui da solo che ha rubato degli asset da altri giochi e che ha fatto un sacco di soldi. L'importante è avere l'idea giusta al momento giusto, come in tutto. Per Kickstarter, per Indiegogo, per il mobile, per PlayStation e così, per PC e così. Ma anche, per Steam, la PC, se tu pensi a quanti soldi Steam. Hanno fatto con Roba Simulator, che veramente a volte non valeva niente, giochi che alcuni sono terribili. Beh, se appunto God Simulator, gioco più venduto di Steam, eccetera, eccetera, è nato come pesce d'aprile. Sì, quindi, sì, sì, ma guarda, quello lì poi alla fine magari si strappa due risate, sì, vabbè. Ma roba tipo Agricultural Simulator 2014, 2011 che io tra l'altro, no, era in un bundle, quindi non so. A me emozionano molto i simulatori quelli per simulatori tedeschi, per tedeschi, no? È un genere. Euro Truck Simulator. Ma sono tutti tedeschi questi, eh? Quelli, esatto, quelli di lavoro dei campi, quello del camionista. Sì, sì. Ma c'è tutto, guarda, c'è tutto. E fra l'altro è in sviluppo, mi sembra, Rock Simulator, che è un simulatore di pietra. Io pensavo di Rockstar. Sì, sì, quello l'avevo visto. No, no, di pietra. No, no, no, è un simulatore di pietra. Che guarda, c'era anche Grass Simulator. Grass Simulator. Crescere, vari tipi di erbe e così via. No, ore e ore di risate. Io comunque, ecco, ultimamente mi sono reso conto che sono contro quei giochi che, in generale, che diventano un lavoro. Ecco. Cioè, come appunto i Dark Souls, poi magari in giochi stupidi come gli MMO tipo Destiny, tipo World of Warcraft, ci sto più che a lavoro, ok, però mi danno qualcosa in cambio subito in qualche modo, lo so, riescono un po' a fregarmi, ok. Invece quelli tipo Dark Souls, tipo Bloodborne, eccetera eccetera, ma soprattutto tipo Monster Hunter, di cui ho un ricordo tragico, basta, cioè non posso tornare da lavoro e riprendere a lavorare lì anche. Ah, adesso devo uccidere di 18 di questi per farmi le pelli per venderle. Sì, a questo punto, sì, me ne vado con l'arco a cacciare nei boschi della foresta nera tedesca. Spero che questo piano piano si stia. Cioè. L'hanno capito, insomma, lo stiano capendo. E insomma, l'ultimo Monster Hunter è un Monster Hunter. Quindi vabbè, il gioco è quello, sei il cacciatore che caccia. Questa cosa. Sì, esatto. E poi i vari simulator, idem. Cioè, appunto, questi giochi qui dove devi guidare un camion. Ma cazzo, ma fai guidare un camion? Beh, però questo è un genere di simulazione che ha una storia lunga. Adesso non voglio entrare troppo nella cosa, ma c'era già con l'Intellivision il simulatore di camionista. Sì, sì, sì, ed era anche interessante perché comunque bisognava decidere cosa prendere, dove portarlo, dove era il prezzo vantaggioso, un po' come Elite. Poi se si passava per il Texas, come si dice, le estrazioni di petrolio per strada, lì si poteva risparmiare facendo il pieno, bisognava contare tutte queste cose. E questo, beh, è un genere che va molto, è un grande classico, cioè quello è Space Invaders. Ok, ma per quanto ci puoi giocare? Cioè, nel senso, io non mi ci vado a giocarci per un anno. Io ho giocato per tantissimo tempo a un simulatore di camionista giapponese per PlayStation 1, che riguarda proprio forse quello, un genere, cioè, culturale. Al tempo magari sì, al tempo. Vabbè, quello più che altro ci fai quattro risate. Però vabbè, è come quello di conducente di treni giapponese, cioè che dovevi fare il conducente di treni. Però la figura del camionista giapponese è caratterizzata in un certo modo. Se senti tutte musiche tipo Mario Merola, quindi tu c'hai tutte queste canzoni così. Poi piano arredi tutto l'esperienza del camion, con tutta roba quattissima. Però vabbè, chi gli prende, gli prende. C'è molto lavoro esterno al gioco. Ovviamente con quattissimo non volevamo offendere i camionisti che ci ascoltano. No, figura. Anche Mario Mario. No, quello è, no, no, è una figura tipicamente giapponese. Visto il camionista giapponese è una figura romantica. È un po' una specie di eroe, di ultimo samurai. Quindi ci sono questi camion tutti serigrafati, con questi di leonde disegnate sul cassone. È proprio una figura tipica giapponese. Anche i nostri serigrafano i camion, forse con meno gusto. No. Beh, molti Padre Pio. Molti Padre Pio, molte croci. Vabbè, comunque, dopo esserci insultati a vicenda perché ognuno gioca per i cazzi suoi a generi diversi, e su piattaforme dive, no, non è vero, dai. Anch'io sono contro la console war da sempre, contro PC Master Race, contro qualunque cosa Master Race. Io l'ho sempre detto, io vivo secondo i dettami della natura del sergente Hartman di Full Metal Jacket, ovvero che lui dice sempre: qui non importa se sei negro, messicano, italiano, cinese, qui nessuno conta un cazzo. Quindi e quindi per me tutti schifo uguale, mettiamola così. E quindi molto bene, li amo tutti automaticamente. E tutti ti amano comunque. E tutti mi amano, tutti i giochi mi amano, tutti i giochi mi odiano, infatti sono scarso in tutti i videogiochi. Giocate pure con me se volete battermi a qualunque cosa. Sono no, come Michele Torbidoni, che saluto, che anche lui, lui è ancora più scarso, credo. Sì, lui è ancora più scarso di me. Si è messo d'impegno il ragazzo. Così. Bene, detto ciò, direi di salutare. Perché sì, adesso sì, salutiamo, ragazzi. Quindi vi lasciamo ai nostri nuovi segmenti ulteriori. Ecce. Ringrazio Gianluca, che nonostante tutto ha avuto una connessione più che utile. È andata benissimo, incredibile, perfetto. Esatto. Ma è ovviamente anche il piccolo Marco. Grazie. Che ci delizia sempre con i suoi racconti di, dell'asilo. Mm. Dell'epoca di Cicco Beppe. Sì, cioè con Giulietta. Anche sì. Benissimo, allora un saluto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Oh, meno male, io pensavo proprio, cioè, aspetta, perché Pillars l'abbiamo finito nel frattempo, cioè, palla di fuoco. No, è finito Pillars. Palla di fuoco, ma io non c'hai palla di fuoco adesso, no? E non puoi più, perché non puoi continuare il gioco. Come no? No, quando è finito? Bah, è finito. Quindi io adesso, se c'hai delle quest in sospeso, c'ho il 50% delle quest in sospeso. Sono cazzi tua, tu sei brescioloso, ti ficchi nei buchi. Questo buco mi sono buttato. Perché com'è? Buco ricco mi ci ficco. La filosofia De Noantri. Va bene. A questo punto io aprirei l'angolo speciale. L'angolo speciale e sentiamo il nostro magister Stefano Biggio con le sue 50 sfumature. Il mio 50 sfumatore di primi avvii in questo caso, perché parlerò in contemporanea. oppure non lo so, le prime sfumature, non lo so, fate tutti voi, esatto, fate voi tutti i mischioni che volete. Vabbè, io guardo un gioco appena uscito, che è per questo caso io ci sto giocando su PlayStation 4, ed è un bel giochillo in digital che si chiama Wolfenstein The Old Blood. Ma cos'è Wolfenstein The Old Blood? Per chi non fosse a conoscenza dell'esistenza dei videogiochi, Wolfenstein è un brand creato nel 92. Fa parte della storia dei videogiochi. Esatto, dall'ID, l'ID Software, che insomma ha creato dei giochini, insomma, cosettine, Doom, cazzatine, cioè. Queste cose qua che passavano, sono passate un po' sottotono nel mondo dei videogiochi, e poi è andata lentamente a smerdarsi, diciamo. Beh, ha combinato così la sua carriera con Rage, per dire, insomma, sì, quindi, insomma, diciamo che, come dire, non potevano fare di meglio. Il ragazzo è bravo ma non si applica, mettiamolo in questo senso. Fatto sta che il mio 50 sfumatore riguarda questo videogioco in una duplice maniera, ovvero il gioco in sé è un prequel al gioco uscito, insomma, ormai sarà un annetto fa, forse quasi, al momento in cui stiamo registrando, ovvero Wolfenstein The Old Blood. Pronuncio tutto in maniera molto pesante, ok? Per fare piacere. Io mi tocco nel mento. Fai posso bene, toccare. No? Con una pronuncia educata e accurata. Il fatto sta che, in quanto prequel, ci troviamo nel punto in cui i nazisti non hanno ancora completamente conquistato il mondo, non hanno ancora vinto la guerra, e può essere ricondotto a una specie di versione moderna di Wolfenstein 3D, quello che fu appunto il glorioso gioco dell'ID a suo tempo. Beh, in teoria è un reboot. Comunque. Sì, sarebbe una specie di reboot. È un prequel di quell'altro e un reboot di quello originale, quindi pensa che quante cose è questo gioco. È un reboot, un delirio, però è anche un gioco anche a sé stante. È un mix di situazioni, un preboot, sì. 50 sfumatori di preboot. 50 sfumatori di reboot. Di primi reboot. Soprattutto boot. Di reboot, fatto sta che questo gioco qui, rispetto al primo, ovviamente al gioco, al Wolfenstein del 92, non c'entra niente in termini di storia, perché il primo era, per ovvi motivi, molto lineare: vai avanti, apri le porte, uccidi i nazisti, spari i cani, prendi le chiavi, esci cercando di scappare dal castello, da questo forte dove sei prigioniero. E in questo caso qui la storia in questo caso si fa molto più complicata, quindi tu entri nel castello come spia e ti ritrovi prigioniero anche in questo caso, ma riesci a fuggire e c'è anche un'ambientazione cittadina in seguito. La cosa peculiare è questa: in primis ci sono degli easter egg divertenti, ovvero in giro puoi trovare dei riferimenti al primo Wolfenstein sotto forma di immagini, ma anche ad altri giochi dell'ID. In questo caso, ad esempio, io ho trovato il pupazzetto dentro la camera di un nazista, di un gerarca, di un generale nazista. Ho trovato il pupazzetto del Cacodemon, quello no. Il demone napoletano di Doom, che tutti ricorderete, esatto, perché andava in giro. Cacodemon. Esatto, andava in giro facendo wow, wow, wow, wow. Era Waller. Esatto, è il primo demone napoletano della storia dei videogiochi. In seguito, poi provando, insomma, mi sono avvicinato a un letto e c'era la possibilità di dormire. Io pensavo che questa cosa semplicemente ti permettesse di recuperare energia più velocemente o qualche stupidaggine così. Invece, ti permette in ogni capitolo, i capitoli del gioco sono 8, in ogni capitolo di questi giochi di rivivere l'esperienza del primo Castle Wolfenstein. Dai, carino. In 3D, quindi identico a quello originale, con la differenza che la skin delle armi è quella moderna, mentre quelle dei nemici e di tutto il resto sono quelle del tempo, con tanto di oggetti e personaggi che, se tu ci giri attorno, loro ti mostrano Beat sempre map. Esatto, okay, ti mostrano sempre la sua faccia, diciamo. Quando finisci il livello ti svegli, oppure puoi scegliere di svegliarti in qualunque momento del gioco. È una trovata che mi ha ricordato molto quando in Day of the Tentacle puoi giocare a Maniac Mansion, sempre esatto. Del... pensavo la stessa cosa, che secondo me è bellissima, perché chi ci ha giocato a suo tempo, io un paio di partite, devo ammettere che non è che non sono stato molto dietro alla parte vecchia, anche perché sinceramente ci ho giocato abbastanza a suo tempo, anche troppo. E vorrei ringraziare mia madre, che ignara mi disse: ah, ecco, un mio collega mi ha dato questo floppy con un gioco per te. Si scoprì poi che il gioco era questo qui, e che per un bambino di... quanti anni avevo? 6-7 anni forse. Era un po' esagerato. Infatti lei non era molto d'accordo col fatto che ci giocassimo. È andata bene, adesso sto benissimo. Insomma, ha ucciso il collega, da... No, probabile, conosco. Adesso, a parte quelle 2-3 stragi che sto pianificando, per il resto non mi è successo niente. Ecco, cioè, i videogiochi non fanno male. No, assolutamente. Quindi, detto ciò, se invece voi non ci avete giocato e volete darci un'occhiata, questo vi dà la possibilità di giocarlo in maniera molto comoda, senza sbattervi né niente, ti rompi la palla e esci, eccetera eccetera. Le armi del gioco sono abbastanza peculiari, quindi sono quel mix tra steampunk e modernità, quindi ci sono i super soldaten, come vengono chiamati nel gioco, che mi ricordano molto gli Sturmtruppen. Esatto. I super soldaten, che sono dei mix biologici col metallo, con una corazza gigantesca che devi distruggere con molta fatica, e che all'inizio del gioco è quasi impossibile far fuori. Infatti non mancano le parti di stealth all'interno del gioco, soprattutto all'inizio. In seguito, quando sei un po' meglio equipaggiato, diciamo, puoi spaccarli sparando nei punti giusti, non nelle palle come state pensando voi, ma verso la schiena, sulla schiena, dove tengono gli sotto la schiena. Sì, più o meno. No, hanno degli accumulatori di energia che permettono di venire danneggiati. Il tutto è abbastanza... Ah, sono quelli che vanno attaccati tipo al tram, che vanno attaccati col filo sopra, che hanno... Anche, che esatto. Sono attaccati alla corrente di sopra. Alcuni, i primi che incontri sono quelli. Poi ci sono delle versioni avanzate che poi si trovano anche in New Order, dove sono wifi praticamente, sono wireless, anzi sono wireless, esatto, sono wireless, e ti permettono di quindi loro se ne vanno in giro per gli affari loro, e tu scegli se schivarli oppure andarci a muso duro. Io sinceramente ci vado, cioè io gli sparo in faccia a tutti. Ci sono proprio quelle parti dove puoi stare lì, dici: allora, se elimini il generale, lui non può dare l'allarme, quindi tu puoi far fuori i nemici furtivamente, eccetera. Io cioè, no, ucciderle, no, Marco, no, così. No, guarda, io arrivo lì. Poi la cosa bella del gioco è che puoi utilizzare la maggior parte delle armi su due mani, quindi tu prendi due fucili d'assalto, due pistole, quello che vuoi, e spari come nel vecchio gioco, quindi quei due fucilazzi che sparano in contemporanea, facendo bordello coi Gatling, con quant'altro. Quindi ha un doppio approccio a questo gioco. Sinceramente mi sta piacendo. Non è come storia a livello del primo, però se uno ha giocato del primo, in questo caso del seguito temporalmente parlando, quindi di New Order, però se vi è piaciuto New Order, giocate anche a questo. Costa una ventina di euro, quindi la spesa è abbastanza accettabile per una doppiato decina in di italiano, diciamo. Poi tra l'altro doppiato in italiano, con la possibilità di avere i sottotitoli. Io lo sto giocando incredibilmente in italiano, perché non mi ribono, forse non faceva cambiare la lingua e io non mi sono messo a cambiare la lingua della console, sinceramente, perché qualche volta anche sti cazzi sono pigro, insomma, sì, esatto, può succedere. Però le parti parlate in tedesco sono in tedesco, e la cosa incredibile è che dopo 25 anni più o meno capisco cosa succede in Wolfenstein, cosa si dicono i soldati. Questo è il mio, esatto, questo è il mio, le mie 50 sfumature, perché quando leggo le frasi che ci sono durante i tempi di caricamento, che a dire la verità sono abbastanza veloci, incredibilmente, e anche nei manifesti o quello che si dicono tra di loro, o sì, sottotitoli in italiano, però colgo le parole che dicono, ed è molto emozionante per me, dopo appunto 25 anni, capire cosa si dicono non solo i nazisti tra di loro, ma anche la resistenza. Il protagonista è il solito Blaskowitz, BJ, come viene chiamato lì nel gioco, che poi è lo stesso di Wolfenstein 3D, che è lo stesso di New Order e così via. Si vede come si è arrivati alla vittoria dei nazisti sugli alleati. E poi molti anni fa c'era stato già un, sì, un reboot. Sì, c'è stato esatto, il primo reboot e anche il Return to Castle Wolfenstein, però bravo, non esatto. Aveva avuto il successo di questi. Un po' una cagata. Sì, perché vabbè, questi qui sono giochi... come dire, creati per il single player più che per il multiplayer, mentre invece quelli avevano avuto molto successo per il multiplayer. Invece appunto New Order e questo sono proprio incentrati sul single player, in modo da creare un'avventura come se appunto una versione di Call of Duty, però fatta da persone che volevano creare una storia un minimo interessante con un po' di colpi di scena, cose particolari che succedono, armi altrettanto particolari, niente di veramente incredibile. L'arma fondamentale del gioco è un tubo, ok? Cioè quel tubo lì, ragazzi, preparatevi perché vi salverà la vita in 200 situazioni. Sarà l'arma migliore del gioco. È un po' come il piede di porco di Half-Life. Esatto. Gordon Freeman, ha detto anche Morgan. Sì. Esatto. Morgan Freeman, che tra l'altro è uscito quella specie di remake, no? Quel grande Black mod Mesa, che poi alla fine Valve ha approvato e ha reso disponibile su Steam. Esatto, Black Mesa. Che si chiama Black Mesa e che praticamente ricalca praticamente il primo Half-Life. Dato che chiudiamo queste 50 sfumature e siamo appunto in 50 sfumature, yes, e tu vivi in Svizzera, allora la domanda è d'obbligo: com'è la situazione nei paesi in lingua tedesca riguardo eventuali embarghi, no, embarghi più che altro limitazioni? Limitazioni, allora, per The New Order non lo so, perché la copia l'ho presa in digitale, quindi, e io ho il PSN italiano, quindi non ho limitazioni da quel punto di vista. So per certo che ad esempio South Park era stato censurato, come la versione, cioè come le altre versioni, quindi, e addirittura i simboli dei nazisti, perché appunto nel gioco in South Park The Stick of Truth a un certo punto si incontrano dei nazisti e i simboli erano stati censurati, le svastiche eccetera, e anche tutte le varie parti, sì, che sì, sono beh, state, ma anche Wolfenstein a suo tempo ci ha avuto proprio problemi, quindi in generale quasi tutti i giochi, ma addirittura non lo troverete mai in un museo del videogioco, addirittura pure qualche Call of Duty, ma allora la cosa è questa: tendenzialmente funziona così, almeno qui in Svizzera, se sono importati dalla Germania. Allora, in Germania è vietato, tutta questa roba qui è vietata. Penso che Wolfenstein, anche l'ultimo, sia vietato tuttora, se non in formato digitale o roba così. Non penso che sia in negozio, almeno. Non ci abbiamo fatto caso, a dire la verità, quando siamo andati in gruppone a Berlino. Potevamo anche dare un'occhiata, in effetti, se negli scaffali c'erano. Sì, in effetti c'erano... non ci siamo proprio posti il problema, è vero. Siamo, è bello che siamo anche andati con... infatti, cioè, siamo anche andati a Marco a cercare i videogiochi che piacciono nei giovani, e io ne sono in uscito tedesco con si video. Dice Videogioken, no, si dice Videospielen, che sarebbe Spiele gioco e video e video. Vabbè, lo video sapevamo gioco. Era una battuta la mia, e vabbè ragazzi, pensavo fosse una domanda seria, voi mi fate cazzo. Domande serie, io vi do risposte serie. Vabbè, no, quindi, dai, io sì, mentre invece in Svizzera, stavo dicendo, dipende da dove viene importato il gioco, quindi tendenzialmente qui nella parte tedesca è più difficile che arrivi, però potrebbe arrivare, ma magari è la versione PAL, quella generale, come dire, multi qualcosa, oppure magari la versione francese, quella italiana, dipende proprio da una questione di fortuna, perché avendo l'influenza di tutti questi vari posti è così. In linea di massima però Austria, Germania, È difficile, soprattutto su questi okay. termini, e chissà perché. Ti faccio una domanda. Aspetta, ti faccio una domanda io, perché sennò me la dimentico. Okay. Ma non che tu ne fai uso, chiaramente, ma in Svizzera ci sono i negrozien? I negrozien, a dir la verità, allora ho visto che ci sono negozi che fanno modifiche su console, ma non ho visto nessuno che venda giochi pirata. Perché se li scaricano, ovviamente. Non lo so, penso con quella di sì. bella fibra di cioccolato fondente che vuoi. Che fibra con i buchi. Ma invece una cosa che è arrivata pure a Monterodondo, attenzione, mo spacco il culo a tutti. E invece una cosa, non c'entra assolutamente nulla con i videogiochi, però tu hai guardato in Germania, come fanno con la trilogia, anzi con la bilogia di Indiana Jones? Bravo, bella domanda. Indiana Jones, penso che c'erano i nazisti. Ma penso che Indiana Jones se lo guardino lo stesso, perché No, invece sai che chissà che non adesso sia. Ci informiamo adesso con la prossima puntata. Mi sa che il primo addirittura non fu proiettato in Germania se non dopo tanti anni. Esatto, quindi... No, io penso che adesso sia più adesso libera, penso sì, che cosa, sia sdoganato, soprattutto... Però all'inizio penso ci sono stati problemi pure per quello. Ma è normale, è comunque un popolo che si, cioè, insomma, è un po' sensibile. Diciamo che, insomma, ed è anche guarda, io penso che non è facile immaginarlo, perché sono anche un esempio unico nella storia, poi, quindi, nel senso, io penso che quello che hanno fatto i nazisti. Impero romano, però non sì, è che vabbè, fosse... Allora, ragazzi, stiamo a parlare di gente che qualcuno ancora campa. Questo sto dicendo, non sto a parlare di Giulio Cesare, capisci? Ma infatti, io sono ben felice di sparargli almeno nei videogiochi. Va bene, io allora andiamo. Grazie, Stefano. Ecco, andiamo alla posta. Posta, cara filosofia. Dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Videoludica. Vabbè, va. È uguale. E dunque, Exit Planet Dust, uno dei nostri più fervidi ascoltatori o commentatori che non ci ascolta, ma ci commenta. Penso che ci ascolti anche. Anche secondo me il podcast risulterebbe migliore. Cavalieri della Tavola Rotonda, attenzione, sul piano della forma, ma anche dei contenuti, se ciascuno fosse sempre messo nelle condizioni di concludere il proprio pensiero, anziché subire continue interruzioni che rendono lo svolgimento dell'episodio fastidiosamente frammentario e compromettono dal punto di vista sonoro la piacevolezza dell'ascolto, perché c'era stata una polemica un po' sì, polemica, sì, quella... che è anche proseguita sull'occhio del Beholder, poi, tra l'altro, perché praticamente si dice che spesso e volentieri ci interrompiamo e quindi uno non riesce a finire la frase magari che stava dicendo. In particolare ce l'hanno cosa giusto... sta dicendo, non succede mai, no, e poi te veramente, ma... però in particolare ce l'avevano Giuseppe, che se l'ha anche un po' presa, devo dire la verità. E anche se poi è vero, va bene fare la critica e soprattutto va bene anche prendere in considerazione, però a volte insomma un po' rompi i coglioni siete, insomma, dai. No, ma è vero, un po' interrompo Giuseppe, adesso ti voglio tanto bene, ma un po' è vero anche io, come adesso in questo caso che vi ho appena interrompendo. Mi stai interrompendo, visto? No, anch'io sono stato accusato di interrompere, ed è vero, perché lo faccio come in questo momento. Può capitare, però per esempio è vero che magari, ecco, Giuseppe, nel senso, se gli viene una cosa in mente può essere preso magari dall'enfasi e cerca di rispondere, magari si infila nel discorso, ma è vero pure che però, e questo non voglio dire per difendere Giuseppe per forza, che la maggior parte degli episodi che noi registriamo sono comunque cioè nel senso sono distribuiti tramite Skype e quindi non è detto che la sincronia dell'audio sia sempre facile, no? Nel senso, può capitare, insomma, che ci sia. Purtroppo, tema centrale dell'episodio. Scusa, stai parlando? No, non stavo parlando. non ci ho fatto. Però tu non stai su Skype. No. Quindi vaffanculo, non ti posso neanche chiudere, capito? Non puoi. Va bene, e poi c'è. Comunque, c'è lui ha detto che The Order probabilmente non l'ha giocato, ma l'avrebbe annoiato a morte, più o meno così. E altri complimenti. Da Facebook, sulla puntata di Kojima, Mario d'Amore, il nostro gonzo tedesco. In the name of love. Ma chi fa le voci dei personaggi di Metal Gear? Geronto Gamers, bellissime. Diciamo che Geronto Gamers per un po' sono in pausa, poi li recupereremo e faremo tutta la serie di puntate tutte insieme. Beh, sono vecchi, si devono riposare, anche complessivamente. No, vabbè, non c'ho cioè veramente non ce la faccio. E ma tu cosa? Tu mica sei uno dei, cioè mica sei, non posso fare tutto io. Bisogna dirlo a Geronto Gamer, mica a te pizzi, scusa. No, però poi Geronto Gamer se me lo mandano a me da montare, in quel senso. E allora, tra l'altro la puntata di Kojima non se l'è cagata praticamente nessuno. L'unico commento è di Mario D'Amore che parla di altro. Poi in quel momento è arrivato la fucilazione diretta di Kojima. Sì, toccherà poi tornare a parlarne, perché io un'epurazione storica così drammatica e drastica io non l'ho mai vista per nessuno. Io l'ho vista nell'antica Egitto. Esatto. Nell'antico Egitto, dove c'erano fior fior di faraoni che venivano, c'era proprio una parola cancellare. Di adesso che sì, sì. La cancellazione della memoria. Sì, sì, non c'era la aspetta. No, non è epurazione. No. Però c'è proprio una parola specifica egizia, Lord Ali. Sicuramente era Zemdon. Però praticamente hanno fatto proprio un documentario, non so, molto tempo fa, diverso tempo fa, che c'era sta faraona. Che praticamente faraona sasso, ma risultavo che sasso hanno buttato dentro al forno. No, è che quando è morta, siccome che non i super conservatori, come dice, i sacerdoti non accettavano che potesse essere una donna a fare la faraona, quindi essere diretta discendente degli dei, quando questa è morta ed è stato portato su un nuovo faraone, praticamente è stata completamente cancellata dalla storia, monumenti, scritte, racconti, il nome stesso completamente spazzato. L'ho ricordata come Ugo su tu, esatto. Poi dopo vabbè, magari alcuni reperti sono usciti fuori e via dicendo. Va bene, quindi grazie a Mario D'Amore e soprattutto a Ex Planet Dust. Ringraziamo Gianluca Santilio e Marpo che hanno partecipato, insomma, insieme a Stefano. Prima ho delle difficoltà con il nome Stefano. Sì, tranquillo, è sempre Stefano. Ma non come negli ultimi quattro anni, sai, sempre. Sì. Esatto. Ma è qualcuno che ti sta sul cazzo che si chiama Stefano, a parte me. No, è che c'ho da combattere tutti i giorni con Stefano Paganini, forse è quello. Vabbè. Tra l'altro che lo taggo, esatto, sbagliandomi con te, quindi sai. No, tagli me al posto suo, è grande, esatto. Ma adesso gli voglio, esatto, bene, guarda, se cambiato questo Stefano Paganini è anche un po', mi fa bene, un po' complimento tutto. La damnatio memoria in latino, sì. Grande, non è proprio egiziano, che è studiato, no. Sì no, sta, ho studiato, sta con Google in mano il telefono. Vabbè, anche quello è uno studio, esatto. Bene, allora Marco, la prossima puntata. La prossima puntata si parlerà di Faraone. No, dico, no, cioè, ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo di Faraone. No, non parleremo di Faraone. Di che parliamo? Vuoi che te lo dico? No, c'era una sorpresa. Adesso non dire niente. Allora, Stefano Clibigio, salutiamo il pubblico, Stefano. Ciao amici e grazie per il vostro gentile ascolto. E la prossima puntata, La solitudine dell'hardcore gamer. Che titolo... Tristezza. Impegnativo, oserei dire, un titolo impegnativo. E, detto questo, www.archeologiavideoludica.it, archeologia videoludica lo trovate su Facebook, Google Plus, iTunes, abbonatevi gratuitamente, mettete 5 stelle, fate mi piace, insomma cercate di condividere, ma soprattutto dietrologia videolude è il nostro Twitter e dietrologia videoludica @gmail.com è la nostra posta elettronica. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie Stefano, grazie a tutti, grazie quanti, a ciao. E buona damnatio memoria a tutti, esatto. Fuck the system pure un po'. ciao. Ciao. Ciao. Ma che cazzo di peso ti rende? Aspetta. Mi stai incasinando. Dai, quello là di chi sta. Allora è giusto. Sì. Mi sono un colpo, dice, oddio, me. Ma il riciclaggio del materiale umano è perché la gente, quelli là, anche i vecchi sviluppatori che sono tutti in gioco. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. This year has us all wanting to be healthier, and that includes our eye health. But how do you get vision coverage if you're retiring? It's actually pretty easy. VSP, the vision coverage many people get through work, offers individual vision plans. Enroll anytime, on any device, and start using your benefits the same day. You don't need to be an employee to get employee-level vision coverage. Visit vspdirect.com today. That's vspdirect.com. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you.